difendiamoci, facciamo qualche cosa, ma lasciamo che la storia faccia il suo corso e a poco la società socialista ci verrà tra le mani, così ce la troveremo davanti, nascerà in qualche maniera spontaneamente. Un'altra anteposizione è: no, facciamo maturare, indirizziamo le, diciamo, tendenze e i movimenti e le diciamo, dialettiche, i conflitti che ci sono all'interno della società, facciamoli maturare con un progetto che sarà tanto più diciamo, efficace quanto più terrà conto delle tendenze reali, e quindi non diciamo, pensi di sovrapporre alcuna progettualità campata in aria, diciamo, utopistica, ma teniamo conto di questo, ma facciamo in modo che questa cosa ci sia. Cioè, quindi una più positivista. Più, tutte e due positiviste, tutte e due, una più riformista e una più rivoluzionaria. Una che tende, diciamo, attenzione però, perché poi spesso le cose si sovrapporranno, diciamo, dal punto di vista storico queste due posizioni emersero, erano già chiare nell'Ottocento, perché però erano tra il marxismo e altri, diciamo, componenti, l'anarchismo nella sua componente bakuniniana, bakuninista, diciamo, quella principalmente legata alla figura di Bakunin, diciamo, insurrezionalista, poneva già questa cosa, ma Bakunin non aveva alcun interesse per il reale sviluppo sociale o il reale sviluppo delle classi sociali. Bakunin perseguiva una sorta di ideale di purezza e ce lo diceva: per arrivare bisogna distruggere, è una cosa più importante di distruggere. Adesso poi vedremo per esempio alla Comune di Parigi come si comportarono entrambi. Sì. La cosa rivoluzionaria è sempre nell'ottica di una funzionalità della storia. Terribile. Allora, da un lato, diciamo, comunque la prima posizione, quella che ho detto, facciamo maturare la nuova società dall'interno della, diciamo, società borghese senza creare rotture, perché tanto prima o poi il socialismo verrà fuori, è quella che è stata tipica dei grandi partiti operai, primo tra tutti il partito operaio tedesco, costruiti però dopo la morte di Marx, che avviene nel 1881, e negli ultimi vent'anni dell'Ottocento, nei primi decenni del Novecento, chiamati partiti socialisti o socialdemocratici, il più importante dei quali fu il partito operaio socialdemocratico tedesco, fondato già mentre era in vita Marx, ma che poi si sviluppò meglio negli anni successivi, e che è la posizione che oggi, diciamo, oggi che nel corso del Novecento si è detta con una parola riformista. Il riformismo è, diciamo, questo. Il riformismo di oggi ha addirittura perso ogni riferimento alla società socialista, ma il riformismo classico dell'Ottocento e della prima metà del Novecento sale ancora questo riferimento. In parte c'era ancora adesso, se vedete oggi il Partito Socialdemocratico Tedesco, il Partito Socialdemocratico Tedesco oggi è grosso modo diventato come partito comunista o come partito democratico in Italia, grosso modo, mentre, diciamo, Die Linke rappresenta una posizione socialdemocratica più di sinistra, ma sempre nell'alveo di questa idea, perché ormai nessuno pensa più alla cultura rivoluzionaria. La seconda posizione invece fu dapprima, diciamo, tipica di alcune piccole minoranze dentro i partiti socialdemocratici, tra cui la Luxemburg in Germania, alcuni dirigenti operai olandesi, una parte del partito socialista italiano, ma soprattutto il più importante di tutti fu la frazione, diciamo, che si chiamò poi bolscevica del partito operaio democratico russo, che si scisse da quella menscevica nel 1904, e che si chiamò poi, e che è quella che fondò poi i partiti comunisti, cioè i partiti cosiddetti comunisti. In realtà entrambe queste posizioni, sia quella, diciamo, socialdemocratica classica riformista, sia quella comunista rivoluzionaria,

gli interessati, è uscita recentemente una riedizione di Vertigo Capitale con il vecchio testo di Althusser, una serie di contributi nuovi, diciamo, di Balibare e altri. Balibare è uno molto interessante, io lo conosco poco, perché ma ora stiamo parlando dell'oggi, è uno che andrebbe in qualche maniera studiato. Allora, la vicenda, nella vicenda dell'operaismo italiano, vi anticipo, agisce esattamente questa, passatemi il termine, dialettica, tra posizioni inconsciamente ancora hegeliane o, diciamo, deterministe, o addirittura all'interno dello stesso pensiero, delle stesse persone. Per esempio, nel pensiero di Tronti e di Negri c'è ancora una componente di tipo hegeliano, inconsapevole. Negri negherà sempre, ovviamente, di essere hegeliano, ma c'è ancora oggi nel suo pensiero una componente del genere, e una tensione ad uscire dall'hegelismo e a negare il, come dire, marxismo come filosofia della storia, tanto per capirci. Comunque, l'operaismo italiano fu uno dei laboratori più importanti dell'Europa, in cui questa tensione teorica si coniugò con la pratica politica e con le metodologie, perché l'Italia era uno dei paesi in cui maggiormente, anche se in modo, anche da certo punto di vista effimero, ma però storicamente poi diciamo molto molto prolungato, la lotta di classe, cioè la dinamica sociale, si è presentata con... Beh, prima di pensare, quindi si ripresentano ogni volta che si va a considerare... Due o addirittura diciamo tre, perché... Che poi arriva la seconda metà del Novecento. Arriva solo la seconda metà del Novecento. Diciamo, grosso modo, che ci sono due possibili letture ancora deterministiche, ancora positivistiche, o post-positivistiche, della, diciamo, dinamica sociale marxismo, che sono quella tradizionale socialdemocratica, quella comunista che non c'è praticamente più, perché ormai con la caduta del muro anche teoricamente questa cosa si è andata indebolendo, e poi invece c'è un crogiuolo di letture, diciamo, differenti, che io chiamo post-strutturaliste, che prendono avvio dalla lettura strutturalista di Althusser e la elaborano in modo diverso, che sono già presenti però già negli anni 60, vedremo, anche nello stesso Tronti e nello stesso Negri, cioè anche Tronti e Negri avevano e hanno delle componenti che vanno in questa direzione, mescolate con componenti che vanno. La seconda cosa che volevo aggiungere a quello che ha detto Loretta l'altra volta è che Marx non è stato solo un pensatore politico, non è stato solo un filosofo della politica, un filosofo dell'economia, è stato anche un leader politico, è stato anche un organizzatore politico, ha avuto anche una, non sempre la sua vita, ha sempre sperato di farlo, ad un certo punto è arrivato nelle condizioni di farlo, diciamo con la fondazione della cosiddetta prima internazionale, l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, fondata a Londra nel 1866. Questa è la cosiddetta prima internazionale, che in realtà dura per pochi anni, perché quasi subito dopo la Comune di Parigi si scioglie, quindi dura meno di 10 anni, che però nel giro di dal 76 al 71-72, 1866-1972, come dire, per la prima volta mette insieme, mentre localmente nei vari paesi d'Europa stavano nascendo delle organizzazioni operaie, che più o meno erano collegate tra loro tramite l'internazionale. In realtà poi Marx muore nel 1881-82, come dire, prima di poter cogliere i frutti prima di poter vedere, però in realtà il partito operaio socialdemocratico tedesco era stato fondato prima, 1960 o 61, e Marx stava già in esilio in quel periodo, stava già a Londra, perché Marx aveva partecipato attivamente alla rivoluzione del 1848-49 in tutta Europa, in particolare in Germania, e ovviamente era stato in qualche senso all'esilio, perché le polizie degli stati tedeschi Nella sua attività, e quindi poi, no, quindi poi fu Engels, che diciamo, sopravvisse alla morte di Marx e visse fino ai primi anni del Novecento, che è veramente bellissimo, nel 99, non ricordo quale. E quindi fu Engels che in qualche maniera, diciamo, raccolse l'eredità di Marx. E, ora, e però purtroppo per noi scrisse anche il quarto libro del Capitale, che Marx non aveva, non aveva scritto, c'erano però tutti gli appunti, le cose, eccetera. Il quarto libro del Capitale uscì molti anni, 10 anni dopo la morte di Marx, edito da Engels. Ora, se... Perché ha detto questa giudizio? Adesso ve lo spiego. Ora, non possiamo evidentemente accusare Engels, né di essere tanto stronzo quanto la sorella, diciamo, di Nietzsche, e quindi il quarto libro del Capitale non è esattamente La volontà di potenza di Nietzsche, edito dalla così sorella. Però è vero che tra i due pensatori, Engels era ovviamente una specie di fratello, come dire, minore di Marx. Gran parte della sua funzione storica consistette nel mantenere Marx, che non faceva un cazzo e non lavorava, quindi Marx, la moglie di Marx e le sue figlie, ma tenute tutte le Engels. Qua Engels era un capitalista, perché aveva una bella fabbrica di tessili nel nord dell'Inghilterra, a confine con la Scozia, quindi sfruttava i suoi operai. Capitalista buono. Cioè, capitalista buono, che poi finanziava il pensiero, come dire, rivoluzionario. Però Engels, tra i due, era quello non meno colto, ugualmente colto, e non possiamo fargli una colpa che fosse meno dotato, che fosse meno geniale di Marx, però purtroppo era positivista, lui sì, era molto positivista, era terribilmente positivista, e gran parte della colpa o della responsabilità del come dire, positivismo del movimento operaio tedesco ufficiale, ho detto operaio socialdemocratico, non dico l'inglese, che aveva dato fuori da un bel po' di anni, furono di Engels. E tutta la lettura positivista di Marx deriva da Engels in gran parte, e basta che voi vi leggiate l'Anti-During, opera del solo Engels, una delle poche opere scritte dal solo Engels, scritte due libri molto importanti, uno veramente buono, che era scritto nel 1940 e da Rotti, che è La condizione della classe operaia in Inghilterra, che è il primo libro di, diciamo, sociologia marxista, diciamo, quindi non di sociologia, ma cui è una inchiesta, un'analisi precisa su quello che poi vedremo, insomma, si potrebbe anche chiamare composizione di classe, che poi vedremo sarà uno dei concetti fondamentali dell'operaismo. E l'altro è questo Anti-Durm, invece, che è un'opera filosofica di polemica contro, come dire, l'idealismo, ma veramente terribilmente positivista. Cioè Comte, c'è più Comte che Marx, insomma, cioè, quindi c'è una idea meccanica diciamo, delle epoche che cambiano in una dietro l'altra, cioè, proprio esattamente come a Comte, aveva questa idea di mettere un cambio al mondo e di fare, diciamo, le cose sono così tutte, cioè, come Hegel, cioè, era, diciamo, il positivismo ha gli stessi difetti dell'idealismo, cioè, solo che lo fa da un punto di vista più apparentemente scientifico o scientista. Però c'ha la stessa mania di Hegel di incasellare le robe negli schemi. Allora, Hegel c'ha la mania degli schemi a tre, Comte anche quasi, o a tre, o a quattro, eccetera, eccetera. Anche molte delle cose che scrive Marx sono brutte, noiose, per esempio quelle sulla Cina, sull'India, eccetera, e quelle in cui lui era più influenzato da Hegel, o gli studi sulla matematica. Il contadino di Marx era un fatto di matematica, e ha scritto delle cose pessime sulla matematica, perché per nostra fortuna aveva avuto poca circolazione. Come Stalin sulla linguistica, e purtroppo nel libro di Stalin avrebbero molta maggiore circolazione di quelle di Marx sulla allora qual è il problema che si pose a Marx e che non si poneva alle componenti anarchiche? Perché le componenti anarchiche, prudoniani e sexuniani, poi dopo Bakunin, eccetera, erano totalmente indifferenti, non erano interessati alla dinamica di classe, cioè alla crescita e al rafforzamento della classe, alla coscienza della classe operaia, intende, no? Come strumento politico. loro erano interessati a far crollare la vecchia società, certo, su questo c'era accordo con il, come dire, marxismo e con il socialismo, diciamo, scientifico, ma questo doveva avvenire per loro non tanto in base a degli interessi di classe contrapposti a quelli di un'altra classe, ma in base ad un principio generale che l'uomo doveva essere libero, l'albero dell'uomo, eccetera. Quindi Bakunin e Ensone, eccetera, non gliene poteva un cazzo a loro della, di fare, diciamo, costruiamo il partito della classe e quindi facciamo in modo che i movimenti della classe penetrino nella politica, no? Questo fu il grande, la grande, come dire, il grande tentativo di Marx, che Marx perseguì per lunghi anni, lunghi decenni, senza riuscirci, perché non era quello di dare ai movimenti spontanei e anche alle organizzazioni spontanee della classe operaia una valenza politica. Ora invece la lotta politica per tutta l'Europa dell'Ottocento e fino a che Marx visse e anche dopo c'era, non che non ci fosse, la nuova politica era stata inaugurata nell'Inghilterra della rivoluzione cromwelliana, insomma della rivoluzione del 600, dopo con la decapitazione di quel breve periodo repubblicano che conobbe l'Inghilterra, perché poi era una dittatura di Cromwell, eccetera, e poi con la rivoluzione americana e poi con la rivoluzione francese, in cui c'era dietro una dinamica di classe, ma i partiti, cioè i raggruppamenti politici che agivano in queste rivoluzioni, prendiamo quella francese che è la più famosa, che è la più importante, eccetera, no? Tutti questi partiti non avevano riferimenti, di classe, erano partiti interclassisti in cui ci stava dentro borghesia, piccola borghesia, proletariato, artigianato, contadini di tutti i tipi, giacobini. I giacobini c'erano differenze politiche, erano più o meno radicali, ma non c'era una... Ora, l'analisi di Marx porta Marx invece per la prima volta a teorizzare che la classe operaia in quanto tale deve entrare nell'agone politico, non i singoli proletari. La rivoluzione francese è stata una rivoluzione concepita, pensata, indirizzata, progettata e diretta da elementi della borghesia, piccola o grande, borghesia, che fosse, erano tutti avvocati, commercianti, gente del genere, i leader politici nobili che erano passati di campo, erano Lafayette, Mirabeau, Condorcet, l'altro girondino, non mi ricordo, erano Robespierre, tutti borghesi, ma la mano d'opera, le forze sociali che hanno fatto davvero, sono stati i pre-proletari o i sottoproletari, gli artigiani di Parigi, i fanculotti, quelli che andavano in giro senza le culotte, cioè senza i pantaloni aderenti, chiusi al ginocchio, che portavano i nobili, e portavano invece esattamente questi pantaloni che stiamo portando noi lunghi e queste brache larghe che erano il contrassegno delle classi popolari. Non c'era ancora un vero proletariato nella Parigi del 1789, 90, 91, 92, 93, ma c'erano i prodromi del proletariato. C'era già un proletariato nell'Europa del 1830 e del 1848, quando ci furono le successive ondate rivoluzionarie, quelle a cui Marx partecipò, quella del 39, che era piccolo, quella del 48 aveva già 30 anni, quindi poteva partecipare, ma con il 18, un'altra volta, non mi ricordo mai. Aveva 30 anni, nel 1848 aveva 30 anni esatti. Nel 1848 c'era già il proletariato come classe, perché si era già sviluppata in Inghilterra, soprattutto meno sviluppato che in Inghilterra, c'erano già anche in Francia e in Germania, e tutta il grande sogno di Marx partecipa alle lotte operaie, alle lotte, scusate, politiche del 48, che erano lotte democratiche contro l'assolutismo. E in Francia il 48 vince, fanno le barricate e fanno la seconda repubblica, certo, non sono quelle descritte da Victor Hugo nei Miserabili, che è quello del 1830, in cui vedete poi viene fuori un altro, viene fuori Filippo Torlanti. Cosa? No, ma anche lì era direttore, però no, quella la Repubblica del 1948, Marx cerca di fare la stessa cosa, cerca di fare in modo che siano insurrezioni come quella francese anche nelle città tedesche, e non si riesce. Naturalmente il 48 tedesco è meno, ha meno successo di quello. Però la cosa importante è che cosa si sforza di fare Marx? Marx dice: gli operai devono partecipare a questa lotta politica, ma non dentro i partiti borghesi, ma in quanto operai, devono fondare una loro forza politica, devono sostenere da un certo punto di vista, per un certo tratto, le rivendicazioni di democrazia della borghesia contro l'assolutismo, contro i nobili, contro il vecchio mondo, insomma, cos'è? Dice, però poi ad un certo punto devono avere una loro politica indipendente, autonoma. Fallisce Marx in questo, non si forma in nessun paese d'Europa un partito politico operaio, proletario, diciamo, e quindi non si forma a lungo. Il primo paese in cui c'è qualcosa di questo genere è l'Inghilterra, ma l'Inghilterra per una serie di motivi ha una, come dire, tradizione ultra riformista e riformista in modo proprio molto, anche molto diffidente verso i tedeschi, verso tutti i continentali, anche oggi è così, sapete com'è, l'Inghilterra c'è poco da fare, è un'isola, insomma, per quanto sia nell'Europa, insomma, c'ha dei modi, orgogliosa del fatto di essere stata al primo posto, diciamo, nell'Europa in cui c'è stata una rivoluzione anti-assolutista, no, intanto anche politica, quella del 1630 di Cromwell contro il re, il paese già allora era quello più industrializzato d'Europa, eccetera. Morale, il movimento operaio inglese è già nel 48, negli anni successivi, è il più forte d'Europa, ma è il meno incline a avere rapporti e soprattutto a formare un partito, cioè un politico indipendente. Ha dei fortissimi sindacati, tipo molto particolari, vedete, trade unions, ma per esempio un partito laburista non si formerà se non alla fine dell'Ottocento, 1880, 82, eccetera. Quindi ci sono dei politici liberali che difendono di volta in volta alcuni diritti, alcune cose degli operai, ma non c'è mai un partito, insomma, la classe operaia in quanto tale non scende direttamente nell'agone, come dire, politico, ma partecipa alle lotte politiche in posizione subordinata. In tutti i primi anni di esistenza della prima internazionale, dal 1886 al 1871, le organizzazioni operaie che aderiscono a questa associazione internazionale dei lavoratori, di cui Marx era praticamente il segretario, faceva tutto, da Londra faceva tutto, sosteneva i contatti, aveva le cose, scriveva le lettere, faceva pagare le quote alla gente, mandava le cose, cioè, era proprio, c'era ovviamente un comitato fatto di inglesi più alcuni delegati che quando potevano arrivavano dagli altri paesi, diciamo, dell'Europa, ma queste associazioni operaie non erano dei partiti politici, erano qualcosa a metà, noi diremmo, tra, diciamo, sindacati e società di mutuo soccorso. Difendevano gli interessi immediati della classe operaia nel loro paese, ma erano incapaci di diventare soggetti politici, attivamente soggetti politici. Fino a che nel 1871, alla fine, all'inizio del 1971, succede in Europa un episodio che avrà larga, grandissima importanza per la maturazione politica della classe operaia. E questo episodio è la Comune di Parigi. In breve, in Francia, intorno alla fine degli anni 50 dell'Ottocento, era salito al potere un pseudo nipote di Napoleone, personaggio veramente squallido, peggio di Berlusconi, Luigi Bonaparte, però col nome Bonaparte, insomma, si fa praticamente diventa il re, insomma, in qualche maniera. Sì, non è una vera monarchia, ma insomma, Luigi XVI. No, no, quelli sono i re della, i re della, diciamo, dinastia ufficiale, i Scapetini, i re del Re Sole, insomma. No, quelli sono, come dire, Napoleone era un piccolo borghese di Ajaccio in Corsica, era un militare, ha fatto quello, dopodiché diventa dittatore della Francia, generale, però, questo qui era il vabbè, e c'è una nipote, comunque è uno che siccome comunque sì, mentre c'era Napoleone, mentre è l'ascesa di Napoleone, di questo secondo Napoleone, no? in Francia chi c'era come XVI? Luigi XIX c'era, perché l'ultimo, no, non c'era più Luigi Filippo d'Orleans, c'era Filippo d'Orleans, ok, e poi dopo Luigi Filippo d'Orleans c'è la Repubblica, e quindi Luigi Bonaparte si innesta sulla Seconda Repubblica, batte di fatto la Seconda Repubblica e crea quello che lui chiama un impero. Lui è imperatore dei francesi, empereur de France, imperatore dei francesi, un tipaccio veramente. Vabbè, insomma, succede che per insomma, ragioni geopolitiche, eccetera, si mette in conflitto con la Prussia. La Prussia ha appena unificato tutta la Germania praticamente sotto di sé, più o meno come ha fatto il Piemonte in Italia, ma ovviamente la Prussia aveva una forza militare e anche economica molto maggiore nel Piemonte, quindi l'Italia e la Germania si unificano negli stessi anni, nel 1860-61. Però ovviamente la Germania già di boh, quindi 10 anni dopo è già una grande potenza europea, e quindi si scontra e c'è una guerra. Marx costantemente, ogni volta che c'era un conflitto tra gli stati eccetera, non è che diceva no, gli operai non devono, come dire, interessarsi, diceva no, gli operai devono stare da questa parte contro l'altra eccetera. E nella guerra franco-prussiana o franco, diciamo, tedesca del 1870, Marx si schierò a favore della Francia. Perché? Perché il suo nemico principale era l'assolutismo prussiano, era la forma politica assolutistica, diciamo nobiliare, lo stato degli Junker, uno stato razzista, protofascista, cioè i prussiani tremendi erano, insomma, quindi, e quello era il suo grande nemico, era il suo, come dire, paese. Poi diceva naturalmente proletari francesi e, come dire, tedeschi devono c'erano già le fanzine razziste, devono poi, diciamo, solidarizzare, però dal punto di vista generale noi proletari, noi, diciamo, noi parte politica del proletariato, noi associazione internazionale dei lavoratori, stiamo con la Francia. Ma fa una serie di previsioni sbagliate sulla cosa, perché non pensa che in realtà l'esercito francese si dimostra una frana, cioè i prussiani sgominano, come quasi sempre in tutte le guerre, sia nella prima poi nella seconda mondiale del Novecento, i tedeschi spacciano via le truppe francesi, occupano Lorena, Alsazia, che erano posti che loro dimenticavano, Strasburgo eccetera eccetera, e arrivano praticamente fin sotto Parigi. C'è una battaglia storica nel 1970 a Sedan, dove l'esercito francese viene sgominato. Napoleone III, questo Napoleone coglione fantoccio che era lì, sconfitto, piglia e taglia la corda come tutti, come una volta poi di Savoia in Italia nel 41, insomma, eccetera, e nel 42 e 43. E Parigi si trova praticamente da sola, come dire, isolata. I partiti politici fanno la Terza Repubblica, quindi c'è la Terza Repubblica. Questa Terza Repubblica però tenta invano di fare una pace, come dire, separata con i tedeschi. A questo punto Marx rapidissimamente, no? non c'era né internet né il telefono, quindi le notizie arrivavano un po' tardi, però il più rapidamente, dopo pochi giorni, ha avuto

che non ha né il potere politico né quello economico, sono tutti prudoniani, ripeto, non c'è manco un marxista che possa. Però diciamo l'istinto è buono, e questa è la prima rivoluzione proletaria del, diciamo, dell'Europa, quindi del mondo, che ci sia mai stata, ed è ammirevole per il coraggio, anche per la scaltrezza politica, per la sapienza, ovviamente. A questo punto però, diciamo, e quindi questa è la comune di la lettura della situazione, cioè una incomunicante, questo cazzo, prendiamo questi qua stanno presi tra due fuochi, evidentemente, perché hanno di fronte o quasi tutto intorno l'esercito prussiano, il quale obiettivamente, come spesso farà Thiers, i maledetti bersaglieri li accusano di questo, li accusano di essere al soldo dei prussiani, avete tolto il potere a noi perché volete mettervi d'accordo con i prussiani. In realtà loro firmano un armistizio con i prussiani, a caso, perché è l'unico modo. I prussiani intelligentemente dicono, vabbè, sosteniamoci buoni questi, così intanto facciamo fuori diciamo, l'esercito vero che era rimasto comunque disorganizzato, eccetera. Però a questo punto loro hanno due, come dire, nemici. Diciamo, prussiani di fronte e esercito versagliese del governo, virgolette, legittimo, alle spalle. Diciamo Versailles c'è diversa per un po', perché comunque dopo un mese circa decide di intervenire nella benevola neutralità, diciamo, dei prussiani che non si muovono, un po' come gli israeliani a Sabra e San Fatila nell'81, diciamo l'esercito bersagliese entra in Parigi. Ovviamente militarmente ha, diciamo, ragione degli insorti in fretta, massacra più di 20.000 persone, comprese donne, bambine, eccetera, tutti quelli che avevano d'accordo, poi gli ultimi, diciamo, superstiti. Quando questo? Nel? Marzo del 1871. Un mese e mezzo. Una cosa brevissima. Però in quel breve tempo c'è la dimostrazione di una capacità politica della classe operaia. È la prima volta che la classe, un'organizzazione operaia, cioè un'organizzazione, un gruppo di operai, gruppi di operai, una classe sociale, insomma, il proletariato parigino, prende il proprio destino nelle sue mani, si auto-organizza, si autogoverna, fonda un'organizzazione, una auto-organizzazione politica. Le ultime compilazioni delle ultime centinaia di persone, poco più di 120-150, raccolte contro un muro, sono fucilati e gettati in una fossa comune, i corpi non verranno mai ritrovati, quello che oggi si chiama il muro dei federati, e che siccome stava, diciamo, all'esterno di un cimitero, del cimitero del Père Lachaise a Parigi, quindi oggi c'è questo muro dove ogni anno, insomma, ogni tot si torna in totale due volte. Una volta il centenario della comune e la seconda volta quest'anno, e ci si commuove sempre un po', perché per caso sono quelli che hanno, però hanno fatto inizio, sono quelli che hanno iniziato. Ripeto, uno si sarebbe potuto aspettare che Marx diceva che questi sono mica, sono miei, che me ne frega, non c'è manco uno dei nostri, tutti i pruduniani, tutti i coglioni. Invece Marx da Londra capisce bene che bisogna valutare, questa è la prima volta che questo è il passo che lui aveva sempre usato nella vita, finalmente il proletariato che entra nella politica attiva, che fa la cosa, e quindi in 4 e 48 mette insieme, stila una risoluzione dell'Associazione Internazionale dei, come dire, lavoratori, che secondo me né un pianto funebre né niente, insomma, mette in, diciamo, rilievo, intanto rende comunque onore a quelli che sono stati ammazzati e massacrati da questi stronzi qua, e quindi dice, attenzione, all'inizio della guerra franco-prussiana né Marx né Bakunin, che erano i due principali anche se contrapposti protagonisti dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, avrebbero scommesso un soldo bucato sulle possibilità della rivoluzione, di una rivoluzione proletaria in Francia. Però, come dire, prende atto, insomma, che la Comune, la Comune aveva dimostrato che invece era possibile in condizioni, diciamo, eccezionali. Quindi nella, diciamo, risoluzione, in una lettera lui ammirò l'elasticità, l'iniziativa storica e il senso del sacrificio di questi proletari parigini, e in una lettera ad un amico il 12 aprile, quindi pochi giorni dopo la sconfitta del Comune, disse: dopo 6 mesi di fame e di rovina causate dal tradimento interno ancora più che dal nemico esterno, insorgono tutte le baionette prussiane come se non ci fosse mai stata una guerra tra la Francia e la Germania, e come se il nemico non fosse tuttora davanti alle porte di Parigi. La storia non ha mai offerto un esempio di tale grandezza. E nel manifesto si parla di Parigi, si saluta Parigi, la Parigi laboriosa, pensosa, combattente e sanguinante, che quasi dimentica nell'incubazione di una nuova società i cannibali accampati alle sue porte. Parigi splendente dell'entusiasmo della sua iniziativa storica. E prosegue il manifesto: una volta che Thiers, il capo del governo provvisorio repubblicano, come abbiamo visto fin dall'inizio del conflitto, ebbe adottato la consuetudine umanitaria di fucilare i prigionieri comunardi, la Comune, per proteggere la loro vita, si trovò costretta a far ricorso alla consuetudine prussiana di procurarsi degli ostaggi. La vita degli ostaggi è stata sacrificata centinaia di volte nelle continue esecuzioni di prigionieri a cui i bersaglieri si abbandonarono. Thiers è il vero assassino dell'archivescovo d'Arbois, che fu uno che la Comune... La Comune, proseguiva il manifesto, aveva incorporato il potere politico nella società, di cui costituiva la forza vitale, laddove era stato una volta lo strumento che la controllava e la dominava. Incorporato alle masse popolari, il potere politico ne costituiva la forza, anziché essere la forma organizzata della loro oppressione. Diveniva la forma politica della loro emancipazione. Invece di essere la forza artificiale in mano ai loro oppressori, delle forme della loro oppressione da parte dei loro nemici. Tale forma era semplice, come tutte le cose grandi. Essi, i lavoratori, sanno che per realizzare la propria emancipazione e con essa quella forma più alta verso cui l'attuale società tende irresistibilmente per il suo stesso sviluppo economico, ricordatevi, gli elementi della terra nuova che maturano dentro quella vecchia. Essi sanno che per realizzare la propria emancipazione e con essa quella forma più alta verso cui l'attuale società tende irresistibilmente per il suo stesso sviluppo economico, dovranno sostenere lunghe lotte e passare per una serie di processi storici che trasformeranno uomini e circostanze. Finale, Parigi operaia, con la sua Comune, sarà celebrata in eterno come l'araldo glorioso di una nuova società. I suoi martiri hanno per urna il grande cuore della classe operaia. I suoi sterminatori, la storia li ha già inchiodati a quella gogna eterna dalla quale non riusciranno a riscattarli tutte le preghiere dei loro preti. Che ci sta sempre bene. Sì, è la grande. Insomma, è un grande. C'ha ragione, perché quello è l'episodio, quella in nuce, nella Comune, se tutti... La gran parte dei problemi che si porranno nel secolo successivo, nel secolo e mezzo ormai, diciamo, successivo alla Comune di Parigi, in nuce sono già lì dentro, in quell'esperienza, cioè come ti organizzi, come gestisci un potere in modo che non sia esattamente, cioè, voglio dire, diciamo, facciamo un salto, diciamo, storico. L'ondata sovietica, sovietista, adesso purtroppo il nome soviet, purtroppo è come il nome comunismo, insomma, questa cazzo di maledetto stato burocratico sovietico si chiamava Repubblica Sovietica. In realtà i soviet sono stati sterminati da Lenin e da Trotsky, praticamente appena preso il potere, insomma, la rivoluzione russa, sia quella del 1905, diciamo, abortita, sconfitta, sia quella vittoriosa del 1917, era comunque basata su un, come dire, movimento e delle forme organizzative simili a quelle della Comune erano i consigli, cioè, operai, i consigli di operai, soldati e contadini, ovviamente, perché gli operai sono mancati nella Russia, erano molto pochi, quindi erano in gran parte operai, erano altri soldati che erano contadini, o contadini che non erano i soldati, ma erano organismi elettivi ma costantemente revocabili, in cui c'era un legame continuo tra i rappresentanti e la base, quindi non come la democrazia rappresentativa che tu eleggi il tuo deputato, poi quello che va del cazzo e non proprio nulla, eccetera, eccetera. E l'ondata sovietista consiliarista ci fu un po' in tutta Europa. Nel 1918-19, subito dopo la fine della guerra, della prima guerra mondiale, per esempio in Baviera ci fu una repubblica, in tutta la Baviera, quindi in tutto il sud della Germania, una repubblica dei consigli operai, ci fu a Budapest, embrionalmente in Italia l'occupazione delle fabbriche alla Fiat di Torino era diretta da consigli, cioè non dal sindacato o da partiti politici, ma da diciamo strutture, da strumenti, espressione diretta della classe operaia. Ora, tutto questo per la prima volta era il modo in cui la comune si era organizzata, senza come dire, mediazioni, senza professionismi politici, eccetera, ma con, diciamo, esprimendo direttamente, fondendo insieme dinamica di classe, appartenenza di classe, quindi come dire, attenzione per le proprie condizioni materiali, eccetera, eccetera, e quelli che potrebbero chiamare con una bruttissima parola, una parolata, non usiamola mai, insomma, ideali, cioè prospettiva più ampia, insomma, vogliamo costruire qualche cosa. Questo c'era già dentro la comune di Parigi. Già che siamo sulla questione dei soviet, dei consigli, allora però diciamo questo: il comportamento dei partiti comunisti nei confronti delle esperienze sovietiche o consigliari immediatamente dopo la fine della prima guerra mondiale, c'è una ondata europea di queste cose, che non c'è soltanto la Russia. In Russia la cosa è chiarissima. Il partito bolscevico, che a differenza di quello menscevico, cioè il partito comunista di Lenin, prende posizione a parole a favore dei soviet. D'altra parte Trotsky nel 1905 era stato il presidente del soviet di Petroburgo, di Petrograd, quindi quello in cui c'era già una delle prime. Trotsky era stato menscevico per tutto il periodo della separazione tra i due, tra il 1905 e il 1917, ma all'ultimo momento Trotsky stava in esilio a New York, non per opportunismo, credo, ma perché si rese conto, disse no, però devo stare, quindi passò ai bolscevichi. Ovviamente i bolscevichi della prima ora non glielo perdonarono mai di essere arrivato all'ultimo del bolscevico, cioè prima della rivoluzione, diciamo, tra la, come sapete, che la rivoluzione russa ha due tappe, quella di febbraio in cui prendono il potere i bolscevichi e i socialisti rivoluzionari depongono lo zar, e quella invece d'ottobre in cui i bolscevichi rovesciano il governo provvisorio e instaurano quella che loro chiamano dittatura del proletariato, che in realtà è la dittatura del partito comunista sovietico, cosiddetto sovietico. Di loro, per questo, per dirvi, quindi il partito comunista, bolscevico russo, utilizza il nome soviet e apparentemente tiene in piedi la struttura del soviet, ma in realtà lo burocratizza sino dall'inizio. Quindi i soviet hanno davvero fatto la rivoluzione d'ottobre, in effetti alcuni anarchici, una certa componente del mondo anarchico russo ed europeo appoggiò questa rivoluzione, perché erano dentro questi soviet, erano dentro la cosa. I bolscevichi, Lenin, sino dall'inizio, mantenendogli il nome di soviet, in realtà li rimettò, li fece diventare la forma politica del nuovo Stato cosiddetto comunista o del socialista eccetera, e quindi lì, come dire, ne sbaragliò dall'interno la portata, ne minò dall'interno la portata rivoluzionaria. La riprova di questo sta che 2 anni dopo la presa del potere, 1 anno e mezzo dopo, alla fine dei primi mesi del 1920, quando il Soviet dei marinai di Kronstadt, che è il più grande porto, era il più grande porto sovietico sul Baltico, entrano in conflitto con una serie di decisioni del governo, insomma, di Lenin, che era presieduto da Lenin, quindi si rifiutano di applicare una serie di misure di apertura a certe forze economiche, eccetera, eccetera. Lenin fa subito schierare l'esercito alle porte di Kronstadt, fa una specie di assedio, e quando il soldato di Kronstadt protesta, perché è quello che ha in mano la società, sono in gran parte anarchici che erano stati fedeli alla rivoluzione, non anarchici con l'ordine, l'avevano fatta con loro, ma quando c'è un vero dissidio non è che Lenin dice discutiamo, no, è Trotsky che farà tanto il democratico anni dopo, quando Stalin, non è che dice sì, c'è loro. Trotsky, in quanto ministro della difesa e quindi capo dell'esercito, prende le soldature speciali, va a Kronstadt e stermina il Soviet di Kronstadt, stermina esattamente come hanno fatto quelli stalinini bersaglieri nei confronti della insomma comune. Quindi diciamo la componente autoritaria della tradizione, diciamo, bolscevica è chiarissima fino all'inizio, non è solo no, certamente Stalin l'ha peggiorata a iosa, ne ha fatto un'altra, però diciamo in nuce già nelle posizioni leniniane c'è questa, le vere correnti consigliariste c'è questa? Ho perso il passaggio. Questo è la rivoluzione russa, dopo la rivoluzione di ottobre, dopo la ascesa di Lenin al potere e la creazione dello Stato russo, cioè, rimangono alcuni soviet e quello. Alcuni soviet tentano di rendersi autonomi e quello di Kronstadt viene sterminato, perché padre aveva una maggioranza di anarchici, e viene sterminato. Quindi diciamo. La componente comunista, diciamo, leniniana, leninista, è una componente fintamente consigliarista, cioè gli vanno bene i consigli di fabbrica sino a che i consigli di fabbrica, gli operai, sono fedeli alla linea. Quando sono fuori dalla linea, cioè. In realtà dentro il movimento comunista ci sono una serie di altre componenti che sono e su cui e che ebbero fino dall'inizio una serie di divergenze, che una serie di polemiche con Lenin, ed erano per esempio i consiglieristi olandesi Goethe e Pannekoek, in qualche maniera anche una componente del movimento consigliare ungherese, non certo Béla Kun, che era uno stronzo come gli altri, ma alcuni che non mi ricordo il nome, ma soprattutto il nome più grande, più importante, è Rosa Luxemburg, fondatrice con Karl Liebknecht, che è figlio del fondatore, uno dei fondatori del Partito Socialdemocratico, diciamo tedesco, diventare prima, è fondatrice dello Spartacus Bund, della Lega Spartachista, insieme con lei e la Liebknecht, che poi si trasformerà nel KPD, nel Kommunistische Partei Deutschlands, Partito Comunista Tedesco. Rosa Luxemburg ha una serie di discussioni e di polemiche già nel 1905, dopo la scissione. La scissione tra bolscevichi e menscevichi nel Partito Operaio Socialdemocratico Russo. Il Partito Operaio Russo era un piccolo partito ed era in gran parte fatto di gente all'estero, perché ovviamente i russi erano di zar, però aveva alcuni intellettuali di grande prestigio dentro il movimento operaio europeo. Vivevano quasi tutti in Svizzera. Il socialdemocratico più famoso prima di Lenin, che chiamava Plekhanov, era gente colta, Martov era un altro, era gente che aveva letto. Quando c'è questa scissione in uno dei congressi tra menscevichi e bolscevichi, notate che bolscevichi vuol dire maggioranza e menscevichi vuol dire minoranza, perché in quel particolare congresso Lenin ebbe, non si sa perché, la maggioranza. In realtà lui era minoranza nel Partito Socialdemocratico Russo, quindi poi quando si sono staccarono erano, come dire, erano molti molti più voti i menscevichi di lui, però lui poi ebbe l'accortezza e la funzione e l'intuizione storica, certo, no, di diciamo, sostenere appunto i soldi, di sostenere la rivoluzione spontanea, insomma, e le forme più popolari di rivoluzione spontanea, però con questa idea, adesso vedremo teoricamente perché, che aveva, anzi ci arriveremo, diciamo, subito. Prima voglio dire qualcosa ancora sulla Luxemburgo. È ovvio che, come dire, quando quindi ci fu questa scissione bolscevichi e menscevichi, questa scissione andò oltre, diciamo, l'obiettivo valore dei socialdemocratici russi, che era, diciamo, esimo valore numerico, insomma, no? La forza politica era una piccola forza, però ebbe grande, diciamo, risonanza in tutto il movimento. E naturalmente ci furono i pro e diciamo, i contro, no? Gli scatti, quindi i socialdemocratici nel partito, per esempio i socialdemocratici tedeschi, il partito operaio socialdemocratico tedesco, perché per questa era la denominazione dei partiti della Seconda Internazionale, quella fondata da Engels dopo la morte di Marx, dopo che la prima si era poi spenta, dopo la Comune di Parigi per una serie di motivi la prima internazionale decade, soltanto dopo la morte di Marx nel 1985-86 si fonda una nuova internazionale che è tutta, diciamo, socialdemocratica, grosso modo. Lenin, una volta preso il potere in Russia, fonda una terza internazionale con tutti i partiti comunisti e tutte le scissioni che si fanno dopo la rivoluzione russa nei vari partiti socialisti d'Europa. Ci sono scissioni a diciamo, ripetizione, la componente comunista, che in genere fino a quel momento era stata all'interno dei partiti socialisti, se ne esce e fonda i partiti comunisti, quindi c'è la terza internazionale, sono le uniche tre internazionali che sono state, ovviamente la quarta, insomma, di Trotsky è poco meno, perché è una cosa ridicola, insomma, quindi non se ne parla neanche. Allora, torniamo alla Luxemburg, accidenti. La Luxemburg, mentre la direzione riformista del partito operaio socialdemocratico tedesco prende posizione nel 1905 per i menscevichi e contro i bolscevichi, diciamo, di Lenin, la Luxemburg si, diciamo, rifiuta di prendere posizione. Lenin furbescamente si vende in giro per l'Europa che la Luxemburg era dalla parte sua, e quindi la Luxemburg è costretta a scrivere delle cose per chiarire le cose. Lei in realtà si dichiara tra il 1905 e il 1917, diciamo, non dico equidistante, ma insomma né bolscevica né, come dire, menscevica, né come dire, socialdemocratica né comunista, perché fino dall'inizio è convinta di una certa pericolosità delle posizioni bolscevicche. Non è riformista perché come dire, sostiene che la classe operaia deve in qualche maniera prendere il potere in modo non pacifico, in modo chiaramente violento, però è molto dubbiosa sul ruolo che Lenin assegna al partito comunista, all'avanguardia politica in tutto questo processo. E quindi c'è una serie di dibattiti, un dibattito a cui partecipa anche Trotsky, e quelle sono, in questi scritti di Rosa Luxemburg c'è più chiaramente delineato che in altri una, come dire, posizione, diciamo, consigliarista, che la tradizione comunista, poi siccome la Rosa Luxemburg... considerazione? Consigliarista, cioè di valorizzazione dei consigli operai, cioè degli organi di auto-organizzazione della classe. La classe deve auto-organizzarsi. Del partito. Il fatto che poi la Luxemburg sia diventata sua, magari abbia fondato lo Spartacus Bund dopo la rivoluzione, che era una rivoluzione comunista, che aveva dichiarato il proprio sostegno alla rivoluzione russa, e che sia stata assassinata nel 1919 dai socialdemocratici tedeschi, ha fatto della Luxemburg una martire ufficiale del, come dire, comunismo, e Lenin e i suoi successori si sono ben guardati gli iscritti erano noti, ma dal sottolineare che c'era stato questo dibattito, e che fino dall'inizio Luxemburg non era sostenitrice della dittatura del proletariato e soprattutto della dittatura del partito. Vorrei sottolineare il sesso di questa persona. Era una donna, che era una carta. No, è vero, perché aveva una sensibilità, è stata in galera, una che aveva era una vera militante, però aveva questo suo marito che chiamava che non era Liebknecht. Il governo socialdemocratico di Noske, veramente con una cosa abbrutente all'inizio, quando ancora non si erano trasformati da parte del Bund, credo, in Comunistische Partei Deutschlands, fanno assassinare, i corpi sono dopo 2-3 giorni, una cosa infame. Cioè. Ma come mai? Perché? Perché loro erano sostenitori di una prospettiva insurrezionale, che volevano fare l'insurrezione, stavano organizzando l'insurrezione del proletariato berlinese, in appoggio alla Repubblica dei Consigli di Baviera. I borghesi, come reagirono? La reazione dei borghesi, dei ben pensanti alla comune è paradigmatica. Tutte le volte reagiscono, hanno fatto così con la rivoluzione spagnola. Loro, come dire, massacrano, fanno tutte le strade. Dopodiché alla prima reazione, a volte magari anche in qualche momento, come dire, eccessiva, di quelli che hanno appena preso il potere, se l'hanno preso, hanno fatto così con gli anarchici di Barcellona, eccetera, hanno fatto così con i comunisti bavaresi, tutto. Cioè, siete delle bestie, non avete la convivenza civile. Quindi, e poi la stampa borghese descrive che il paradigma del terrorista, adesso è il terrorista islamico, ma a lungo è stato il terrorista tedesco, italiano, tedesco, il terrorista è quello che, per quanto stronzi fossero questi, non è quello che voglio difendere le Brigate Rosse, però dico, il modo in cui viene presentato un militante rivoluzionario è sempre questo. Dice, sei una bestia, sei fuori dalla comunità civile, non hai, neghi il senso della libertà. I primi che negano la libertà sono loro. Quindi la Repubblica... Non ci sono parecchie differenze tra il terrorista italiano... Sì, non voglio dire, certamente. Però, voglio dire, ok, però, diciamo, un militante come Curcio, come Renato Curcio, che ha teorizzato la lotta armata, che però è stato preso prima che le Brigate Rosse potessero fare qualunque, insomma, credo che non è stato una campagna, lui che non ha mai ammazzato una singola persona, che debba essere stato dipinto come questa belva sanguinaria, che dice, ma dai, cazzo, queste sono cose. Può darsi che Moretti lo fosse, va bene, facciamo le distinzioni, vediamo le singole persone. Alla Repubblica dei Consigli Operai Bavaresi vennero addebitate una serie di nefandezze, di robe, eccetera, che probabilmente c'erano state in parte, ma che erano dovute prevalentemente alla repressione precedente che l'esercito aveva fatto nei concorsi che aveva cercato di prendere il potere prima, insomma. Una volta che hai il nella Spagna franchista, voglio dire, preti e suore erano da sempre strumento del potere politico, non c'è stata una grande moria, ma qualcuno è stata massacrata, certo, qualche prete è stato fucilato, qualche suora, ed è terribile, è stata anche violentata, ma voglio dire, però, non è che questo qualifica, dice, allora, il movimento proletario spagnolo è un movimento di belle sangue. Vabbè, perché ci sono i deficienti, ho capito, no, ma questo per dire, insomma, che gli spagnoli ancora se lo rivendicano sto fatto. Ma certo, ma cazzo, ma perché non che è cosa? E che i comunisti stuprano le donne, ma mio cognato che aveva fatto la guerra di Spagna con la parte franchista, tutta la mia adolescenza mi ha rotto i coglioni con questo fatto. Stuprata una, due, tre, cinque, dieci, cazzo, no. Però devo dire che comunque come forma politica certe volte. No, è riprovevole, è da condannare, ma non posso valutare la comune di Barcellona del 36 dicendo il suo tratto fondamentale è che hanno stuprato dieci suore. O che hanno suicidato. Se invece questo è qualche problema politico, c'è di fondo. Ma certamente, non voglio dire, però insomma, questo è per spiegare anche la come una mite, come dire, Rosa Luxemburg, però era una che poi quando diceva, cazzo, bisogna fare l'insurrezione, non è che era una che era una pacifista, insomma. Cioè, non, non, No, è e questo spiega, e questo, questo spiega perché questi stronzi di socialdemocratici l'hanno assassinata, lei e Carlini, tutte e due, no? Non solo lì, perché lei era dello stile, lei era del... Ora, la Luxemburg è, secondo me, un gigante del pensiero politico del Novecento, e purtroppo è stata studiata poco, perché poi anche tutte le volte che sono ripresentate, lei è stata l'ispiratrice. Allora, per dirvi, quindi Rosa Luxemburg, martire del movimento comunista. Certamente quando andavi a pigliare dove trovavi però le sue questioni, allora la critica che si fa a queste posizioni aveva un nome nella ortodossia comunista, era spontaneismo. Queste sono posizioni spontaneiste. Ora Luxemburg non ha mai negato la necessità di avere un'organizzazione, tanto è vero che stava dentro il Partito Comunista Tedesco, tanto è vero che ha fondato la Lega Spartachista, non è che non l'ha fatto, cazzo. Però semplicemente quello che non voleva fare lei, grazie, era di, come dire, mi dai questo? È più buona la crosta, è buonissima. Semplicemente non voleva, come dire, insomma, non voleva che l'avanguardia politica organizzata nel partito prevaricasse le dinamiche di classe, e per la Rosa Luxemburg, come peraltro per George Sorel, che è un personaggio che bisognerà parlare per un po', ma non ve ne posso parlare perché non lo so abbastanza bene, la forma della insurrezione era praticamente lo sciopero generale, quello che oggi Loretta ama, Loretta, lei ama chiamare sciopero umano o sciopero, lo sciopero è quello che Benjamin chiama sciopero generale proletario, non sciopero generale. Un movimento della società in cui complessivamente tu paralizzi in modo non violento, però cioè senza quello che abbiamo fatto con Fosco, esatto, più o meno roba di questo, era un'azione lì, c'era dall'avanguardia con Fosco, no, allora, blocco totale, cioè blocchi tutto, cioè blocchi tutto, non fai veramente, cioè ti rifiuti di fare qualsiasi cosa, incontri le braccia davvero, lo sciopero, no? Per lo sciopero, sciopero totale, questa cosa, quindi diciamo Luxemburg ha sempre diffidato. Cosa vuol dire sciopero per lo sciopero? Non sciopero perché hai una rivendicazione da fare, non sciopero perché vuoi un salario migliore, non sciopero perché vuoi libertà di stampa, sciopero perché non ne puoi più, e sciopero fino a che tu, stronzo, non sei sciopero per lo sciopero. Sciopero per umano, cioè in cui è la dimensione, è il vero sciopero generale, lo sciopero generale totale, lo sciopero generale complessivo, diciamo, no? Lo sciopero Vabbè, a Luxemburg andrà il difetto della visione della storia come compimento di un vale, era c'aveva una componente, diciamo, hegeliana pure. Qui c'è dell'acqua. Perché la posso buttare via? Voglio prendere quelli di Loretta, l'organizzazione storica, anche questa cosa era, cioè tutte queste cose rivoluzionarie erano tutte in visione di un compimento della storia, che la storia si arrivava a un compimento. Anche lei che aveva l'idea della proletà senza classi, certo. Sì, vabbè, no, perché era una marxista, non era proprio, non è che sia. Sì, perché era comunque marxista. Ma beh, dal punto di vista degli strumenti dell'azione politica, sì, è una aveva, che va rivendicata. Sì, aveva una componente spontaneista. No, ma la parola spontaneista va rifiutata. Il cazzo è il contadino, cioè quando le masse, sì, quando le masse o le moltitudini, insomma, quando si muovono, è certo, ma il contadino ormai nella tradizione è un'eccezione, è cazzo, a me sempre io tutte le avevo, io ero spontaneista, vabbè, io vengo da lì, cioè quindi non, ho sempre beccato sputi in testa perché ero spontaneista. Sì, era spontaneista, la quarta era una bella cosa lo spontaneismo, perché? Perché era fatto come una cosa negativa. Perché non è abbastanza strutturato e consapevole, perché non c'è una avanguardia politica dei leader consapevoli, per cui non ha validità, cioè è una cosa che non ha validità. in questo processo storico che va verso il compimento di qualche cosa. Ho capito. Ma perché? Perché nel processo della storia lineare ogni tassello è ragionato e il conseguente esempio dello spontaneismo è un tassello messo a caso. Perché non puoi mai prevedere davvero quando ti saranno le cose. Quindi nega la sua volta. Quindi il tentativo di insurrezione presuppone la visione della storia come linea. No. Cioè, No, una insurrezione guidata da un partito prevede. Non aveva un partito, certo, aveva un partito col Bund e poi aveva la cosa, ma lei era... se puntava sui consigli, diceva il partito deve soltanto servire per formare gli strati più coscienti della classe, che però poi non deve essere uno strumento, deve stare in Parlamento, a fare in Parlamento, però poi la rivoluzione non deve essere opera del partito, è opera delle masse, della classe. E i militanti comunisti devono stare dentro i comunisti, sciogliere la classe e non rivendicare un ruolo automaticamente dirigente perché sono comunisti. Mentre nella concezione leninista, no, vuol dire che appunto se pensava a queste cose perché era questa visione come vediamo della storia, no, perché questa è una parte, cioè perché questo per lei realizzava, diciamo, inverava questo come dire compimento della storia, cioè nel senso che tutte queste cose spontanee erano, dovevano essere aiutate e, non dal partito, cioè dovevano essere, non c'era bisogno secondo lei di una comunque doveva avere più importanza la componente di organizzazione operaia, di auto-organizzazione operaia delle classi, e questo avrebbe portato alla nascita di un Stato. Tutto questo era la realizzazione di un processo storico che avrebbe portato alla integrazione di una società senza classi. Questa era la componente, diciamo, di tipo hegeliana. Però nella pratica no. Aveva una missione, cioè era sempre nel lato rivoluzionario. Lui quando parla socialdemocratici sono quelli comunque riformisti, quelli che non sono a favore del... No, ma c'erano componenti rivoluzionarie invece della gente democratica. Ma la componente comunista è quella rivoluzionaria, no? Prevalentemente rivoluzionaria. Dove è finito il mio cellulare? L'ho spostato qua. Me l'hanno fatto. Oh no. Ripeti la domanda. La componente comunista è quella prevalentemente rivoluzionaria all'inizio, naturalmente, poi quando assume la forma partitica più forte, ovviamente quando prendono il potere diventano controrivoluzionaria, certo, perché questa è la loro cosa, ma geniale. Spesso anche prima, però spesso anche prima, alcuni loro pure prima. Allora, fatemi no, finire questa dire che parte. Berlino è ancora molto amata, nonostante la tutela del mondo. È una grandissima figura. Comunque, vi assicuro che il termine spontaneista per tutti gli anni 60 e 70 in Italia era una parolaccia. I critici di Lotta Continua veniva considerato un gruppo spontaneista, in realtà era un gruppo di arruffoni. Più che spontaneisti, però sono spontaneisti, perché in realtà non erano leninisti, diciamo, rigorosi, insomma, no? Adesso poi su questa cosa ci arriveremo. Abbiamo tutte le cose dei gruppi. Allora, no, devo dire l'ultima cosa per quanto riguarda, perché credo che poi abbiamo fatto. Facciamo un passo temporale di 50 anni. Sì, perché in breve poi vi dico. No, però vi devo dire l'ultima cosa. Ma poi dopo ci sono tutti i partiti fino agli anni dopo la guerra mondiale. Ma quello in breve si dice, poi. Passiamo agli anni 60. Allora, c'era una ragione, c'era una spiegazione storica del perché un russo sia stato, come dire, il teorizzatore di una concezione così autoritaria della, sia della religione che dello Stato. Cioè, è ovvio che c'è una spiegazione storica e sociale del fatto che Lenin non era uno stupido, che abbia teorizzato l'avanguardia del partito così separata, eccetera, eccetera. La ragione è quella che torna nel titolo di un saggio di Tronti del 74, di cui parlerò, che si chiama Lenin in Inghilterra. La cosa, diciamo, sorprendente e sconvolgente per certi versi, il paradosso del comunismo realizzato del XX secolo è stato che la rivoluzione sociale, la rivoluzione proletaria, non è mai avvenuta nei posti in cui i fondatori del marxismo, Marx ed Engels, l'avevano pensato. Siccome per Marx ed Engels la nuova società matura all'interno della vecchia, eccetera, eccetera, il proletariato, da un certo punto di vista, deve essere favorevole da una faccia allo sviluppo delle forze produttive, perché gli stessi processi che rafforzano il capitale rafforzano anche la classe operaria, rafforzano per esempio la forza lavoro. Bisogna vedere come sono gestiti, chi riuscirà a manovrare meglio i processi, però una posizione di arretratezza, ecco dove Marx e Proudhon divergono. Proudhon è nostalgico di una società pre-industriale, artigianale, dove non c'è capitalismo, certo, non c'è competizione, ma dove quindi non c'è l'enorme sviluppo delle forze produttive, anche in senso positivo, che è stato il capitalismo. Marx dice no, la classe operaria deve essere sviluppata e le migliori chance di superamento del capitalismo sono dove il capitalismo è sviluppato, dove il capitalismo è forte, dove il capitalismo è innervato in tutta la società. Ora, ci sono state tre rivoluzioni, vere rivoluzioni autonome, non importate da altri paesi nel corso del Novecento, di tipo socialista, comunista, dirette da forze che si richiamavano al marxismo. Queste tre rivoluzioni sono venute, la prima in Russia, la seconda in Cina e la terza a Cuba, tutti e tre paesi che nel 1917, nel 1949 e nel 1959, anni in cui avvennero le tre rivoluzioni, erano ben lontani dall'essere paesi industriali. Erano paesi fondamentalmente agricoli, agrari, in cui la classe operaia era una minuscola frazione della popolazione. In Russia nel 17 c'erano alcune migliaia, forse decine di migliaia, di operai in gran parte concentrati a Pietroburgo e a Mosca, meno a Mosca, più a Pietroburgo. C'erano immense zone del paese in cui non c'era neanche un'industria. La Russia era un paese arretrato. La Russia è stata per tutta la vita di Marx l'incubo di Marx. La Russia era, insieme con la Prussia, il paese più reazionario, le forze più reazionarie. La Russia doveva diventare capitalista per Marx, per poter sviluppare un proletariato, per poter avere la prima rivoluzione. Viene in un paese, cioè Marx aveva pensato a una rivoluzione, quando pensava proletaria, in Inghilterra, in Germania, in Francia, nei paesi in cui c'era il proletariato. Il proletariato era una forza sociale più o meno visibile, che contava, con una presenza numerica, sociale e politica. Non certo in un paese, in Cina, non parliamo. La rivoluzione cinese, il paese comunista cinese si forma certamente nelle piccolissime enclave industrializzate della costa meridionale, Shanghai e Canton principalmente, delle semicolonie, cioè dei posti che erano quasi state colonie, in cui l'industria era stata portata dall'esterno, dai capitalisti europei, quindi gente che si era formata lì, quasi tutta lì, erano andati a studiare quasi tutti, non Mao, in Europa, a Parigi, in gran parte, ma Chouerai e l'altro, Terzo Alpini, che sono tutti quanti. E poi Mao era partito, aveva liberato una piccola zona contadina dell'interno della Cina, dello Hunan, nel 46-47, nel giro di 3 anni ha fatto una lunga marcia per tutta la Cina, liberando zona dopo zona contadine, operai, non ce n'era neanche uno, la Cina era il più grande paese agricolo del mondo, Cuba era un piccolo paese, anch'esso, in cui la presenza dell'industria, quel po' di cose che ci hanno portato gli americani, era l'unica vera industria, era quella turistica, era un paese in cui gli americani andavano a buttare. Già l'ho già sentito, già detto. No, però c'ho qualche dubbio. Ma no, a me in un'altra occasione ho qualche dubbio su questo fatto che non fosse possibile. Cioè, questo è sempre nella visione marxista, che bisognava. Cioè bisognava prima passare per il capitalismo, poi arrivare all'anticapitalismo, al superamento del capitalismo, quindi sempre nella questione storica di un ovviamente, passaggio. Era un po' meccanica, meccanica. Cioè, se si pensa invece alla realtà, cioè adesso si pensa che comunque la questione dell'autorganizzazione, a parte che anche in Marx stesso, in tutti i periodi storici c'è la dialettica tra le classi, secondo Marx. Se mi fai finire, però ti spiego perché sta facendo questa cosa, perché non la dico a caso. Questa cosa spiega perché Lenin aveva questa concezione del partito in gran parte. Ah, perché ancora non eravamo arrivati al capitalismo. Oh, in una situazione nella quale le forze sociali su cui tu ti basi sono una esigua minoranza del tuo paese, per esempio la Russia, un partito, cioè l'organizzazione di una minuscola frazione degli operai, cioè gli operai più coscienti e più bravi, eccetera, eccetera. E Lenin era, come dire, sincero, faceva bene a volere la rivoluzione per il suo paese, nessuno lo critica per questo. I socialdemocratici in realtà l'hanno sempre criticato, cioè, ma cazzo, dovevi aspettare, perché erano marxisti dogmatici, dovevi aspettare che si sviluppasse il capitalismo. Può anche essere che Lenin quindi che noi non è che vogliamo criticare Lenin per questo, però voglio dire, in una situazione in cui la tua forza sociale, la tua classe sociale di riferimento, il proletariato industriale, è una esigua minoranza e tu organizzi una minoranza, perché sono gli operai coscienti, gli operai più bravi, gli operai più intelligenti, quelli che, una minoranza della, come dire, minoranza, è ovvio che il tuo è un minuscolo, come dire, partito, e se tu vuoi dare una e poi risolvere i problemi, vuoi fare dei salti, ci fu dopo la rivoluzione russa e dopo quella cinese, dopo quella cubana, si ripropose ogni volta questo dibattito, ma allora qual è lo scopo principale del partito comunista in Russia, in Cina, in cosa? Far diventare il paese un paese capitalista? Questa cosa il paese comunista cinese la sta risolvendo adesso. Il paese comunista ha assolto esattamente a questa funzione. È stata l'unica forza, e nessun'altra forza sarebbe stata in grado forse di fare questo. È stata capace, fra mille traversie, dopo mille cose, perché c'è stato di mezzo la rivoluzione culturale, il maoismo, le cose, eccetera, ma alla fine stanno applicando uno schema marxista. Lo applicano nel modo peggiore possibile, lo applicano in maniera autoritaria, perché c'è, diciamo, capitalismo senza libertà politica, che è una roba veramente terribile. Se già il capitalismo è duro da sopportare con la democrazia, figurate senza la democrazia, cazzo. Quindi. Però da un certo punto di vista, diciamo, l'idea, il problema teorico che si era posto era quello, ma i paesi sottosviluppati in cui vince una rivoluzione socialista sono obbligati a rifare tutte le tappe che hanno fatto i paesi che sono diventati capitalisti per conto loro, l'Inghilterra, la Germania, la Francia e poi gli Stati Uniti, o no? O è possibile saltare delle tappe? Vabbè, ma perché c'è sempre questa visione della, okay, del punto perché finale. C'è sempre questa visione del punto finale e della storia che l'importante non è l'autorganizzazione, oh, esatto, esatto, cioè, si ma concentra sulla finalità di allora, tutto questo. Voglio dire che la, però questo è la concezione autoritaria del partito di Lenin e della tradizione politica bolscevica, in parte si spiega col fatto che Lenin, come altri, come successivamente diciamo cinesi, veniva, operava in una situazione nella quale la sua forza sociale di riferimento era una estrema minoranza e in cui quindi per forza di cose l'avanguardia doveva avere un ruolo di quel genere. Certamente si può obiettare che molto probabilmente su questo forse una parte di ragione ce l'avevano anche i socialdemocratici classici. Era quasi inevitabile che una rivoluzione che una rivoluzione di tipo socialista avvenuta in un paese di quel tipo, come dire, degenerasse rapidamente in forme autoritarie. Non c'era lo spazio, perché non c'era lo spazio per la formazione di una vera dinamica di classe, da un certo punto di vista. No, ma cioè, secondo me poi, non lo so, vabbè, questa non è, scusa, mi interrompo la cosa. No, ma vedi, io non interrompo. Io no, quello, ma la questione quello, cioè, è un'altra, perché l'idea era quella, abbiamo uno schema politico o una abbiamo uno schema storico sociale in cui dobbiamo arrivare, cioè una società senza questa cosa lì, hai passaggio attraverso queste cose qui, quindi è necessario o è naturale che si instauri una questione dittatoriale perché non si è ancora arrivato in quei paesi. Va bene, ma cioè, questo è a prima di tutto perché si pensa che comunque ci sia un'inevitabilità della storia verso quel tipo di cosa. D'accordo, no? Certo. E poi comunque non si sono interpretati tipo certi movimenti all'interno di determinati gruppi sociali come la previsione di una evoluzione della storia sempre verso una determinata situazione, non come magari delle espressioni di auto-organizzazione di gruppi o di, cioè ci sia sempre posta l'accento nell'analisi di queste cose verso sempre a un modello ideale successivo o comunque di evoluzione della storia verso una determinata cosa, cioè nel senso che no, capito, certo, sì. C'è sempre questa, è chiaro che in qualche maniera l'effetto sta nel manico, c'è sempre questa cosa della società post-capitalista e senza assenza di classi, certo. Potrebbe essere anche una cosa che può nascere all'interno di un gruppo che si auto-organizza questa cosa, però cioè, non lo so, c'è sempre questa idea della storia come evoluzione verso questa cosa, in tutte queste analisi. Hai perfettamente ragione, infatti per questo che ho tutto quello che ho cercato finora di sviluppare è stata l'idea che la tradizione dei marxismi comunisti condivide con quelli socialdemocratici il determinismo storico e l'applicazione di uno schema uniforme alla storia, per quanto abbiano tutti e due da vari punti di vista abbiano più volte tentato di superarla, ma in realtà ci ricascano sempre, perché è un marxismo di tipo positivistico, sia quello socialdemocratico che quello che quello comunista. Però bisogna dire che, insomma, detto in altro modo, ci sono più speranze, ci sarebbero state più speranze che una rivoluzione socialista si sviluppasse in maniera davvero democratica in un paese sviluppato piuttosto che in uno socio. Bravo, sì, ma perché? In un paese in cui il proletariato avesse una forza, si poteva pensare. L'ideale di fondo ci fosse un ideale politico da raggiungere che ha portato tutto totalitarismo comunista. Naturalmente, cioè, ha portato era poi per una serie di altre cose. Sì, cioè nel senso che comunque ci fosse sempre l'idea di avanguardia e di ideale politico da raggiungere e che quindi comunque era inevitabile. Cioè, se c'è una verità da raggiungere, inevitabilmente ci sono i depositari di questa verità. Certo. E quindi indipendentemente inevitabilmente, come sostengono una serie di storici, questo tipo di teorizzazione politica e di costruzione sociale porta una reazione da parte delle forze sociali contrapposte o spesso anche non contrapposte di altri settori del proletariato di carattere opposto. Questa è la spiegazione che alcuni storici hanno dato, continuano a dare, che è portata all'estremo e grottesca, ma non è priva di elementi di verità, del fascismo e del nazismo, della dilagare tra le due guerre mondiali in Europa delle tendenze di destra autoritarie e identitarie e diciamo razziste in fondo, esattamente come risposta al bolscevismo. Ma non lo so, cioè, cioè il fascismo e il nazismo, sì, il fascismo, cioè, hanno radici, cioè, le gruppi razzisti, sì, in Germania, no, esistono dai primi dell'Ottocento. Da prima, in Russia non ne parliamo e in Portogallo non ne parliamo. Questo però riguarda l'antisemitismo. È vero. Sì, ma è da lì che poi dopo si sviluppa. Fascismo, allora intanto cominciare vi dico come la penso io, però... fascismo e come dire, nazismo non sono così facilmente separabili e soprattutto vorrei mettere in guardia contro l'idea che il fascismo sia stato, virgolette, più buono del nazismo o meno basso, no, no, perché molta gente a destra la pensa, dice no, ma noi siamo buoni, sì, gli italiani, no, vabbè, allora Hitler è sempre... Allora, intanto guardiamo gli anni. Mussolini va al potere nel 1922. Hitler ci va 11 anni dopo, nel 1933. Hitler si dichiara da sempre grande ammiratore di Mussolini. Il nome internazionale, in tutte le politiche, è italiano, fascismo. Il nome deve dire... Il nazismo, nazionalsozialistische Partei Deutschlands, è una variante, diciamo, tedesca, ma il fenomeno si chiama fascismo. Quindi ora un fenomeno politico di questo tipo è vero che ha radici, diciamo, lontane, ha utilizzato e si è basato e si è e ha, come dire, si è, come dire, nutrito di tendenze in genere centroeuropee o est europee, come l'antisemitismo c'è stato un po' in Francia perché c'era più in Francia, poco in Italia, poco nei paesi latini, né in Spagna né in Italia, moltissimo in alcune zone della, diciamo, Germania, Polonia e in Russia. Cioè, non dimentichiamoci che il più importante falso storico dell'antisemitismo, cioè i protocolli dei sette sabbi di Sion, testo assolutamente spurio in cui ci sono alcuni di questi diciamo, ebrei tutti descritti come, appunto, come luogo comune dell'ebreo tornato adunque, eccetera, e che complottano per costruire un governo mondiale e soffrire, è un falso storico creato dalla polizia zarista, dalla polizia segreta zarista, dall'Ovra, alla fine dell'Ottocento, e circolato in tutto il Novecento in Europa più volte, di volta in volta riproposto come un testo vero, reale, come prova del complotto ebraico per prendere cose su mondo. Quindi questo va bene. Però l'antisemitismo in Francia diciamo, portò a quella grossa spaccatura che fu l'affaire Dreyfus, il caso Dreyfus, quando un ufficiale ebreo nel 1880 e rotti fu accusato di essere stato un agente segreto, di aver fatto il doppio doppio, di aver passato dei documenti ai tedeschi. L'accusa era falsa, si provò poi che era falsa, ma il capitano Dreyfus venne condannato e lo scrittore francese Émile Zola, convintosi sulla base di quello che aveva sentito, del processo, eccetera, che Dreyfus fosse innocente, fece un gesto storico che in qualche maniera creò la figura dell'intellettuale impegnato. Poi nel Novecento scrisse un piccolo pamphlet, voi avete chiamato J'accuse, io accuso, in cui prendeva le parti di Dreyfus, e la società francese si spaccò in due. Tutte le componenti di destra, antisemite, eccetera, si chiamavano contro il Dreyfus, invece le due componenti di sinistra, socialiste e progressiste, contro. In realtà però anche in Francia o anche in questi paesi l'antisemitismo era stato messo al servizio dal punto di vista politico di regimi di vecchio tipo, cioè regimi autoritari tradizionali, zarismo, vuol dire, insomma, diciamo, lo juncherismo, il predominio dei nobili proprietari terrieri nella Prussia e poi in tutta la Germania, produceva i governi conservatori classici, i governi di cui poi in qualche maniera i partiti diciamo democristiani sono stati gli eredi, molto più annacquati e molto meno autoritari del dopoguerra. Cioè, come dire, posizioni liberali classiche, repressive certo, ma diciamo liberali. Il fenomeno del confascismo si ha quando questo modo di pensare razzista, xenofobo, tradizionalista si fonde con il populismo e quindi con una posizione che vede un rapporto diretto delle masse, del popolo, con un leader carismatico, il quale prende, ed è un fenomeno politico totalmente nuovo in quanto forma politica. Il fascismo è una forma politica tipica del, diciamo, Novecento, tipica del Novecento, che ha alcune similarità in altre zone, per esempio il caudillismo dell'America Latina, ma il caudillismo dell'America Latina, che già si era presentato nel corso dell'Ottocento, non era esattamente, non è mai stato esattamente fascismo, era populismo con tratti autoritari, il peronismo. Il peronismo, cioè, Perón in Argentina è stato quello che nel Novecento, ma ce n'erano già stati prima, insomma, è stato l'esempio. Questo è anche un socialista di fondo. Sì, ma allora, e notate che non a caso tutti e due i grandi movimenti, diciamo, sia quello italiano che quello tedesco, sia il fascismo italiano che il tedesco, vengono da pezzi del movimento operaio. Mussolini era militante del Partito Socialista, massimalista, antiriformista, quindi di sinistra, diciamo, non di destra, per prendere la cosa, direttore dell'Avanti, insomma, quindi era la prima guerra mondiale, diciamo, spacca i socialisti che in grande maggioranza si pronunciano per il pacifismo, i pochi socialisti interventisti si staccano, allora Mussolini apre la porta. Il nome del partito, diciamo, nazista è Nazionale Sozialistische Partei Deutschland, partito nazionale socialista, non partito di destra, non partito liberale, conservatore, non partito liberale, socialista, un socialismo di tipo nazionale. Quindi, come dire, che in qualche maniera questa destra, non tutta la destra, non quella tradizionale, ma questa destra, diciamo, razzista, identitaria, eccetera, sia figlia di spezzoni degenerati, giustamente, diciamo noi, andati a male, ammuffiti, fermentati in modo sbagliato, ma cazzo, vengono, e in qualche modo è vero che sia, perché poi in alcune parti le tematiche sembrano sembrano combaciare quando nel 68 i gruppi diciamo più radicali di destra, i gruppi più radicali di destra, quelli che poi avrebbero fatto le stragi, si insinuano dentro il movimento studentesco e diciamo ci offrono in continuazione l'alleanza, ma in quello siamo d'accordo, tutti e due siamo contro il sistema, anche noi siamo contro il sistema, cioè è l'anticapitalismo reazionario, insomma c'è una componente reazionaria di destra, di ricurgito tradizionalista, identitaria, diciamo passatista, che è quello che a me ha sempre fatto schifo del fantasy, che io non riesco a leggere il fantasy, sì, perché c'è dietro questa roba, i celti, la cosa, l'acqua del Po, eccetera. Capito, ho avuto Fedoretta, però insomma una gran parte del fantasy c'ha quel cazzo di cosa lì, di vagheggiamento di un passato in genere inventato, che non c'è mai stato, sta cazzo di roba della razza reale, il razzismo, Allora, il razzismo nasce nell'Ottocento, Gobineau scrive dell'inegalità del Race Humaine, lo pubblica nel 1830 e siamo rotti, quindi figuriamoci. Ma nell'Ottocento non si crea mai un movimento politico basato su quello. Vabbè. Ci sono singole cose, quindi... Sì, ma non c'è mai stato un... Diciamo, il fascismo come fenomeno politico è tipico del Novecento. Ed è una reazione alla modernizzazione della, come dire, società opposta, ma per certi versi speculare a quella, diciamo, socialista, a quella operaia, insomma, per certi versi speculare, ma rispondono agli stessi problemi, cioè mentre la, diciamo, tradizione operaia, insomma, socialista, comunista, di sinistra, marxista, diciamo, intende in vari modi inserirsi nella modernizzazione per governarla per cavalcarla, per farne uscire come dire, tendenze più favorevoli verso la, diciamo, liberazione di tutta l'umanità o del proletariato che attraverso che liberando se stesso libera l'umanità, nella risposta fascista c'è un ritorno indietro, c'è una, diciamo, risposta, dice no, torniamo a prima, cioè torniamo a prima che ci fosse il capitalismo, torniamo a quando la razza era pura, torniamo a quando l'identità nazionale era più chiara, torniamo a tutta questa cosa si cementa, si riassume, viene simbolizzata da un rapporto diretto e diciamo, paradigmatico del leader con il suo popolo. C'è sempre una visione lineare della storia. Da questo punto di vista Berlusconi non è un fascista, perché Berlusconi non è contro la modernizzazione. Berlusconi è un populista, è un caudillista, è ovviamente lo stesso. Ma non è un fascista. È brava, invece sono molto felice. Vabbè, ma si sa che sono l'area estrema del no mondo. Ma aspetta, ma no, mentre invece guarda che nei loro immaginari loro si considerano antifascisti. Che cazzo, no, senti Bossi, senti Bossi, Borghese è un papà, Borghese è tollerato nella Lega, cioè Borghese non è un vero dirigente della Lega, è uno che torna lì perché gli porta un pochino di voti, ma potrebbero fare meno, però i Calderoli, i Castelli, i cosi loro sono come dire, non si considerano fascisti, invece chiaro che lo sono, perché pigliano non tutte ma una delle componenti, cioè hanno questa caratteristica ovviamente del leader eccetera, ma soprattutto hanno lo sfondo razzista, identità storica eccetera, infatti su questo io non ho mai capito, io rabbrividivo quando vedevo D'Alema che cercava, figurati quanto di frega di D'Alema, uno sfondo al tuo, però cazzo in qualche maniera rappresenta la sinistra. Cioè sapere che, come dire, no, ma sono un pezzo, una costola della sinistra, ma dico, tu sei pazzo, questi sono esattamente la forma, loro sono la forma nuova del movimento. Sì, anche poi comunque è anche tipo una deviazione che può raggiungere il local, per esempio. Certo, cioè le politiche del local possono aggiungere una di queste deviazioni identitarie, torniamo alla... un'attivazione di protezione della, cioè ci sono delle tendenze anche nel movimento no global che possono essere, che possono dare poi avvio a delle politiche. Bové in Francia è esattamente questa cosa. Bové è sul limite di quella cosa, perché dal suo punto di vista gli interessi che esprime sono interessi antimonopolistici, certo, anticapitalistici, non nel senso, diciamo, della direzione della storia, ma nel diritto non è niente, no? facciamo come non tutti facevano il loro formaggino, che cosa vuol dire che se io però una cosa, se io mi ritrovo a rispecchiarmi, a riconoscermi con quelli del mio quartiere, della mia parte, non vuol dire che c'è un principio aspetta, nel senso che quando quello va bene, viene imposto, generalizzato come valore condiviso, ma se tu fai di questo rapporto con il tuo quartiere diciamo una contrapposizione al resto del mondo, cioè questa è la cosa organizzata da contrapporre, cioè nel senso che la politica di relazioni è quella che io condivido assolutamente, non è quella che viene messa in discussione, cioè non è che diciamo perché questa politica può diventare protezionista, no, assolutamente, la politica di relazioni è anche molto più aperta all'esterno, perché non si chiude alle relazioni del quartiere, la relazione può essere anche con un esterno, e poi è giusto chiaramente che tu abbia, che tu maturi, nasci eccetera, però questo ti deve aprire alla se non hai la qualità. Se tu non hai la convinzione che le culture sono processi di ibridazione tra tradizioni e modi di pensare, diciamo, diversi, poi è ovvio che c'è il pericolo quando il local diventa un sistema valoriale, capito? Cioè quando era un punto che alcune volte succede anche nelle più alte intenzioni, comunque, cioè nel senso che certo, sì, io sono affezionata come mia nonna fa la pasta al forno, no? E però non è che posso difendere allo stremo la mia la pasta al forno. No, soprattutto non è che imponendo che non sia è che sulla pasta al forno di tua nonna, esatto, devi costruire una politica di aggressione verso chi mangia i vinci, verso quelli che fanno i vinci grassi. Marchigiani, cazzo. Oppure hai capito, cioè, nemmeno creare un'area di protezione, cioè, esatto, perché il VTG, vabbè, già è una questione, poi vabbè, più complessa, perché c'è tutto poi il sistema di commercio, no, è solo nella questione, vabbè, entriamo in... è solo nella questione valoriale, cioè quando allora diventa tutto un sistema. Arriviamo a Boluccello agli anni 60 o no? Per, sì. Allora, per preparare... Ma accenno a Foucault... Ragazzi, c'è ancora tutto un lungo percorso. Allora, non c'è una pausa di 5 minuti? Se fai un caffè, sì. Se fai il caffè, no? 7:10. Ce l'hai il caffè? 7:10. Vabbè, dai, pausa, andiamo alle 9. Sì, chi lo vuole? Io non lo bevo. Io? Sì. 4. Fanno tu che sei appena ricato. Blocchiamo. Come si fa a bloccare qua? No, blocca tu che sei. Quello rosso? Trovo questa torta. Va? È andato. Allora, come dire, i problemi teorici che si sono posti, si sono portati a porre all'inizio degli anni 50, fino agli anni 50, fino agli anni 60, ve li ho inquadrati prima all'inizio della... Però bisogna fare rapidissimamente, a Boluccello, semplicemente una breve discussione, vabbè, su fascismo e su nazismo abbiamo detto adesso. Ora, l'emergere, diciamo, la rivoluzione russa, diciamo, il Novecento, fu più o meno aperto dalla fine della prima guerra mondiale, quindi dal terremoto geopolitico che si era, insomma, creato, dalla rivoluzione russa e dall'emergere del problema del fascismo internazionale, che è quello che portò alla seconda guerra, e che da vari punti di vista può essere guardato come una gigantesca, come un complesso e ampio tentativo di risposta di quello che si chiama l'Occidente, cioè del sistema capitalistico, alla sfida in qualche maniera posta dalla rivoluzione russa e poi da quella cinese, insomma, poi Cuba era un po' una rottura di coglione, non così grave come le prime due. Quando parlo di sfida posta dalla rivoluzione russa e da quella cinese, non intendo affatto dire che... Dai, il ghevarismo è stata una delle cose che ha accompagnato quelli della mia generazione. Parleremo anche di coglioni. Allora, quando dico problema posto dalla rivoluzione russa e cinese, non voglio dire che la rivoluzione russa e cinese avessero davvero creato quello che loro mitologicamente... dichiaravano di aver creato, cioè questo cosiddetto e fantomatico Stato socialista. Da vari punti di vista, dal punto di vista economico, sia la Russia che la Cina erano due stati capitalisti inferiori. Le due rivoluzioni non fecero altro che avviarle sulla strada del capitalismo. Loro sostenevano di essere economie collettive, cioè certamente un capitalismo di tipo particolare, molto burocratico, molto burocratizzato, molto... ma dal punto di vista politico era indubbio che questi due paesi costituissero una minaccia non per l'identità occidentale in quanto tale, ma per le diverse versioni dell'identità occidentale e soprattutto per la gestione politica dell'economia che i gruppi dirigenti dei paesi capitalisti intendevano portare avanti. Il fascismo e il nazismo complicarono la cosa, perché crearono all'interno dell'Occidente una alternativa alla gestione democratica del capitalismo. Alternativa così pericolosa per gli stati cosiddetti democratici, che la lettura che, cioè, che intanto diciamo, fu insomma, scatenata la guerra mondiale, e è talmente pericolosa che poi la lettura storica che si vede dopo fu una lettura aberrante, stupida e diciamo indipendibile, e cioè che il fascismo e il nazismo fossero, soprattutto il nazismo, fosse stato una sorta di incidente, una aberrazione, una cosa, eccetera. Non era vero nulla. Il fascismo, il fenomeno fascista in quanto tale è una delle forme concrete politiche che può prendere la gestione politica di un sistema capitalistico. Il fatto che siano stati sconfitti, il fatto che siano particolarmente, non vuol dire che rappresentassero quella cosa, cioè vuol dire la tradizione diciamo democratico-liberale del capitalismo ha cominciato con la demonizzazione del nazismo a mostrare una pericolosa tendenza verso il pensiero unico, perché si è autolegittimata come l'unica forma di gestione politica possibile del sistema capitalista, dicendo che l'altra non aveva neanche questa dignità, che era fuori dalla storia, mentre invece si è trattato di un confronto aspro vinto dalla componente democratica con l'aiuto dell'URSS, ma di due cose o di due componenti esattamente. Sullo sfondo di questa cosa c'era però un'altra questione che apparve all'inizio poco chiara, ma dopo la guerra più chiarissima, e cioè il declino della prima forma di governo di implicito o diciamo coperto governo mondiale dell'economia, che era stato dal 1830 in poi l'impero britannico. L'impero britannico era stata la forma politica ed economica attraverso la quale il capitalismo si era imposto nel mondo e quindi aveva sia la prima che la seconda guerra mondiale in realtà furono probabilmente, la seconda guerra mondiale non c'è dubbio, cioè gli avvenimenti che portarono alla guerra mondiale dimostrarono la obsolescenza o la fragilità dell'impero britannico. E nel periodo della prima guerra mondiale si preparò però rapidamente l'alternativa, e cioè fu l'emergere degli Stati Uniti come potenza leader come potenza leader sul terreno economico ma anche politico, evidentemente specialmente dopo la seconda guerra mondiale, del mondo di diciamo, torniamo un attimo precedentemente a Marx. Nel tipo di capitalismo che Marx aveva analizzato, che era il capitalismo diciamo concorrenziale, certamente la concorrenza ai suoi tempi non era perfetta allora, però insomma diciamo era un capitalismo un po' più concorrenziale di quello diciamo di adesso, quello della prima fase, della prima fase impetuosa dello sviluppo industriale, aveva fatto enunciare più volte l'idea che ci fosse una contraddizione o una discrepanza sulla quale il proletariato poteva fare leva all'interno del sistema capitalistico, che era questa: tanto era organizzato e quasi militarizzato il sistema capitalistico all'interno della fabbrica, tanto era organizzato gerarchicamente all'interno della fabbrica, tanto era, virgolette, anarchico nella società. Cioè, le forme politiche e sociali nella società civile, diciamo nella sfera esterna, quella dell'economia, non dimostravano lo stesso grado di organizzazione, di coesione e di disciplina che mostrava l'organizzazione del lavoro produttivo. Diciamo che diciamo, il capitalismo quindi dimostrava di essere un, secondo in alcune formulazioni di Marx, un sistema molto ben organizzato sul piano economico all'interno delle unità produttive e molto poco organizzato, diciamo lasciato in balia di rapporti di forza quasi brutali nella vita, diciamo, sociale. Già verso la fine dell'Ottocento, cioè poco dopo la morte di Marx, alcune tendenze analizzate non a caso da Rosa Luxemburg, da Lenin e da altri e da alcuni, diciamo, economisti anche più bravi di Lenin, a un certo punto di vista, per esempio Hilferding, mostrarono però che questa cosa stava già cambiando. Intanto che c'era una forma di capitale che sino ad allora era stata, come dire, un capitale di servizio che serviva al capitale industriale, ma che non minava, non diciamo minacciava la priorità del capitale industriale, che era il capitale finanziario, il quale stava invece prendendo spazio sempre di più, si dimostrava importante più che il capitale direttamente impegnato nella produzione di merci materiali. Il capitale impegnato nelle condizioni economiche generali per far produrre le merci materiali, cioè i mercati finanziari più che quelli delle merci, cominciavano ad essere importanti. Questo già verso la fine dell'Ottocento. Ma la grande crisi del 29, l'ultima delle grandi crisi di sovrapproduzione del capitalismo, c'erano già state diverse, almeno due o tre nel corso dell'Ottocento, ma mai nessuna di portata così grave come quella del 29. Sovrapproduzione vuol dire l'economia capitalista è ideologia della crescita, deve crescere in continuazione. Ad un certo punto arriva un momento in cui le merci che tu, come dire, produci non sono più assorbite dalla società. Quando tu produci enormemente più merci di quanto la società non sia in grado di assorbire, hai un crollo. Perché in condizioni classiche di capitalismo totalmente concorrenziale. È negli anni dopo la crisi del 29 e nelle teorizzazioni di un grande economista borghese, John Maynard Keynes, e nell'azione del governo statunitense di Franklin Delano Roosevelt subito dopo la grande crisi, che cominciano ad esserci dei dubbi che questa caratterizzazione del capitalismo che aveva dato Marx in alcuni passi, come caratterizzata da una contraddizione tra disciplina in fabbrica, organizzazione in fabbrica e anarchia nella società, fosse realistica. Forse era realistica ai tempi di Marx, ma ai tempi del capitale come finanziario e del nuovo imperialismo che cominciava a venire fuori, che era un po' diverso da quello inglese, diciamo, classico, probabilmente questa analisi non era più, diciamo, giusta. Che cosa disse Keynes? L'unico modo, cioè, di fronte al panico di tutti, come cazzo facciamo qui, le fabbriche che si chiudevano, disoccupazione di massa, eccetera, eccetera, durò 10 anni questa roba, cioè, forse fu soltanto la seconda guerra mondiale che risolse definitivamente la crisi di produzione, almeno Uniti, ma anche ragazzi del mondo. Che cosa dice Keynes? Dice: siete pazzi se pensate di risolvere, di aspettare che l'economia si risolvi da sola, che lasciando mano libera alla cosiddetta mano, diciamo, invisibile di Adam Smith, il capitalismo si risollevi e ritrovi un equilibrio. Qua devono essere i poteri pubblici che intervengono. Dovete fare un piano. La società deve enunciare un piano di grandi lavori pubblici. Dovete anche, in alcuni casi, se basterebbe addirittura scavare dei pozzi un giorno e poi riempirli, diciamo, il giorno dopo. Insomma, basta che ci sia deve essere una sezione del capitale gestita dallo Stato direttamente, dai poteri pubblici, in varie riforme, per dare un sostegno alla domanda, perché una crisi della produzione non è altro che una crisi che crea un crollo della domanda. Quando l'offerta è superiore alla domanda, e crolla sempre più perché hai sempre meno reddito, perché le fabbriche che hanno sovrapprodotto chiudono, buttano via le robe, eccetera. Si cominciava a fare luce, insomma, un funzionamento del capitalismo un po' diverso da quello che Marx aveva, diciamo, descritto, e che nel secondo dopoguerra esplose nel modo più dopoguerra italiano. Dopo 1945 furono degli anni di grande rilancio e economico, dopo gli enormi sprechi che erano dopo gli enormi investimenti che erano stati fatti in armi, armamenti, eccetera, tutti questi capitali, nel momento in cui non hai più, certo, un po' la guerra fredda, ma insomma non vengono più prodotte quelle belle tonnellate di bombe che si producevano mese dopo mese per essere scaricate in giro per il mondo, quando non sai più che cazzo fare, e quindi il paese che più di tutti era stremato in Europa era l'Inghilterra, più ancora della Germania. L'Inghilterra non si risollevò dalla prostrazione economica, che è stato il paese d'Europa che più aveva subito l'impatto tedesco. La Francia era stata subito occupata, quindi non era stata distrutta poche cose. L'Italia qualcosa, ma l'Italia non era un grande paese industriale, era ancora all'inizio della industrializzazione sotto il fascismo. Insomma, quindi, quando durante gli anni 50 i grandi investimenti americani attraverso il piano Marshall in tutta quanta l'Europa, in particolare nei paesi vinti come l'Italia e la Germania, l'Italia si era sottratta dall'essere un paese vinto con lo scamotaggio della Coppa, vennero un sacco di quattrini, si diedero, perché mi ricordo io che le scuole elementari c'erano sul piano Marshall, c'erano le figurine di cartone per far vedere tutte le cose che ci le robe, le macchinari, insomma, fu una grande. Quindi tipo in tutta parte dell'Europa, alla metà degli anni 50, si delineò una specie di piccolo boom economico, e le lotte operaie, che tutti i partiti operai si erano ovviamente nel periodo del fascismo concentrati largamente nel compito politico di abbattere il fascismo, che era stato il clima di unità nazionale, eccetera, eccetera. Da un lato ripartono le lotte, dall'altro si comincia ad analizzare che cosa è il capitalismo, insomma, che cos'è, o come sta cambiando, e il termine che viene fuori è quello di neocapitalismo, e sull'onda del precedente, insomma, diciamo, momento keynesiano di 20 anni prima circa, si comincia i partiti operai tradizionali, quelli riformisti di vario tipo, o quelli comunisti che però stavano rapidamente approdando anch'essi a un'identità riformista, il PC era già su quella strada da tempo, insomma, dai tempi della svolta di... Spiegare anche Ford, per arrivare al posto di Ford. Adesso non so se arrivo. Che cosa dice? Vabbè, in tutta questa cosa, quindi cominciarono anche le lotte con operaie, ma quello che il compito, principale pareva essere quello di analizzare il cosiddetto neocapitalismo. Già allora si cominciava a capire che il capitalismo stava già cambiando negli anni 50, quindi la parola capitalismo non andava più bene. Se il capitalismo era quello descritto da Marx, classico, questo era un capitalismo di tipo nuovo, c'era stato di mezzo l'emergere della dimensione finanziaria del capitale, questa embrionale dimensione di intervento pubblico, quindi di programmazione, eccetera, eccetera. I partiti operai tradizionali, però, in Italia il PC e il PSI, rimangono attaccati a questa idea a questa contrapposizione che aveva le sue radici in Marx, certo, organizzazione della fabbrica, anarchia nella società. E quindi rilevano questa tendenza del capitalismo a pianificarsi, a crearsi un programma, a darsi un ordine anche fuori della, diciamo, della fase, quindi anche dentro la società, come dire, sociale, come si va. Però dicono, il capitalismo da solo non ce la farà mai. È interesse della classe operaia aiutare questa tendenza, spingere il capitalismo a programmarsi, ad autoprogrammarsi, quindi ad adottare una pianificazione, perché questa è la forma perché è qui che potranno maturare degli elementi di alternativa di, diciamo, socialismo. La cosa era facilitata dal fatto che le economie altrettanto capitaliste, ma non era chiaro questo in quegli anni, di paesi come la Russia e la Cina, fino dall'inizio erano economie pianificate. Si diceva, noi siamo delle economie pianificate, voi siete disorganizzati, anarchici, ognuno fa il cazzo che vuole, eccetera. Noi invece abbiamo il grande piano, non era ancora chiaro quale fosse la reale portata, cioè, un po' si sapeva, insomma, la reale portata, diciamo, la reale inconsistenza di questa pianificazione sovietica, per esempio. Ma insomma, in qualche modo, sia per il Partito Socialista che per il Partito Comunista, in maniera diversa, l'idea di spingere, l'idea che la classe operaia dovesse essere partigiana di una pianificazione era coerente con la vecchia idea di Marx che ci fosse una contraddizione tra ordine in fabbrica e anarchia nella società, e che ci fosse anche e che questa fosse anche una traduzione di un'altra delle principali figure intorno a contraddizioni intorno alle quali Marx sembrava avere articolato la sua analisi del capitalismo, cioè la contraddizione tra sviluppo delle forze produttive e rapporti di produzione. In alcuni passi, soprattutto del Capitale, Marx aveva detto: la capitalista porta con sé, anzi ha come causa e come effetto, un grande sviluppo delle forze produttive, ma questo sviluppo delle forze produttive ad un certo punto entra in conflitto con i rapporti di produzione capitalista. Lo sviluppo delle forze produttive, creato, favorito, sviluppato con il capitalismo, si ritorce contro il capitalismo, cioè è un intralcio, perché i rapporti capitalistici di produzione, cioè la proprietà privata del capitale, la produzione privata, la proprietà privata del plusvalore, è in contraddizione con lo sviluppo delle forze produttive. Era come capite bene, e questo era il Marx più positivistico, il Marx più meccanicistico, il Marx engelsiano, il Marx del quarto libro del Capitale, scritto da Engels e non da Marx. Ma era un Marx che andava benissimo per i teorici del movimento operaio. L'idea dell'ordine nella fabbrica era stata ben concreta. L'ordine della fabbrica corrisponde a un'anarchia nella società. Ma anarchia di che tipo? Cioè, anarchia di tipo che ognuno si fa i cazzi suoi, cioè, no? Non che non c'è una forma politica, eccetera, eccetera, ma che mentre nella singola fabbrica per produrre quella merce tu hai una cosa organizzata, pianificata, certo, la tua produzione te la pianifichi, no? Pianifichi la produzione, ma non pianifichi l'economia. Ok, cioè nel senso che comunque all'esterno della produzione in fabbrica, dei processi produttivi, l'organizzazione sociale, anche l'attività economica extra fabbrica è anarchica. Anarchica nel senso negativo, nel senso negativo, cioè. Anarchica nel senso di senza ordine, cioè la produzione ha un fine produttivo e non la produzione è pianificata, la circolazione e la distribuzione delle merci, no, questa era l'idea. Allora, idea sbagliata, totalmente sbagliata, ma questa era l'analisi tradizionale dei compartiti riformisti, o quello da riformista come era il sì, o in realtà con una riformista e un'ala ancora rivoluzionaria, e quello che si stava avviando a poco a poco all'età riformista, che era il PC, il Partito Comunista. La questione dell'ordine in fabbrica era risultata molto più chiara nel diciamo, all'inizio del secolo, tra gli anni 10 e gli anni 20 del Novecento, quando si era creata una grande ristrutturazione all'interno delle fabbriche, dapprima in America e poi che per essere stata iniziata nelle fabbriche automobilistiche della Ford, prese il nome di Fordismo o di Taylorismo dall'economista ingegnere che l'aveva pianificata, che era Taylor. L'organizzazione fordista della fabbrica fu una estrema rivoluzione. L'operaio in serie. Cosa? Era produzione in serie. L'operaio di cui parla Marx, di cui ancora Marx parla per tale, l'operaio che Marx vide per tutta la sua vita, quelli che incontrò a Parigi concretamente nel 1844, quando scrisse i suoi manoscritti economico-filosofici di quell'anno, quelli che conobbe dopo la sua vita, erano operai ben diversi da quelli che, se vi è capitato, avete già conosciuto voi, o anche a quelli che ho conosciuto io quando ero piccolo. L'operaio tradizionale, diciamo, l'operaio del capitalismo concorrenziale nella fase di grande sviluppo prefordista, diciamo, è ancora sostanzialmente un ex artigiano. 800. È un ex artigiano. Sì, 800 per prima parte. È un ex artigiano. È un artigiano che semplicemente non ha più i suoi mezzi di produzione. Perché così, mezzi industriali. Perché utilizza mezzi industriali, ma è uno che conosce un mestiere, conosce molto bene certi attrezzi, certe macchine, sa i loro trucchi, sa come far funzionare. Prendiamo un esempio, un tornio. Un operaio tornitore è un operaio. Però è sempre lì un lavoro che è sempre quello, lo stesso. Non importa. Se no, Marx diceva. Sì. Un operaio tornitore è un operaio che può fare anche, che tornisce pezzi diversi. Se nelle fabbriche più piccole, in cui c'è solo lui che c'ha il tornio, e tutti gli altri costruiscono dei pezzi o fanno dei prelavorati, dei semilavorati, e glieli danno, lui tornirà non solo boccole, tornerà viti, tornerà vari pezzi di cose, deve conoscere bene la sua macchina. È una macchina, no, non è sua la macchina, e quindi quello che dice Marx, che il prodotto del suo lavoro gli si erge di contro, questo è sempre vero, è ovvio, perché la macchina non è sua, non è in casa sua che lui lavora, però egli ha un mestiere tradizionale. Nell'industria automobilistica, ancora quando gli operai della Fiat occupano la fabbrica di Torino, che allora era il Lingotto, era solo il Lingotto, non c'era ancora il mio fiore, nel 1921, sotto la guida di Antonio Gramsci e dei compagni comunisti di Ordine Nuovo, questi operai comunisti, Ordine Nuovo, così si chiamava la rivista di Gramsci. Questi operai della Fiat erano ancora in gran parte operai di quel tipo, operai professionali. L'operaio tradizionale aveva una professionalità. Ora, se voi guardate il grande lavoro che venne fatto negli ultimi decenni dell'Ottocento all'interno delle fabbriche degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e di altri paesi, vi rendete conto esattamente di cosa vuol dire l'espressione di Marx: il capitale è lavoro morto che si erge e si contrappone di contro al lavoro vivo. Ma capite anche che cosa vuol dire la ricchezza sociale è realmente prodotta dalla classe operaia. Una intera generazione di ingegneri e di tecnici e di gente che lavora per il capitale è andata a fare nelle fabbriche prefordiste un lavoro di inchiesta, un lavoro di classificazione dei lavori e dei mestieri fatti dai singoli operai professionali, dalle singole aristocrazie operarie. E tutte questo hanno scomposto quei movimenti, hanno preso il tornio e i tre o quattro le tre o quattro diverse fasi di lavorazione del tornio le hanno assegnate a tre o quattro macchine diverse, o a tre o quattro segmenti di macchina diversi, hanno scomposto il lavoro tradizionale, ancora semi-artigianale che faceva l'operaio tradizionale, l'hanno automatizzato, hanno fatto fare a delle macchine automatiche tutto quello che si poteva fare, hanno tutto quello che non si poteva fare, lo hanno idealmente distribuito lungo una specie di striscia, una specie di nastro sul quale scorrono dei semi lavorati, e un operaio fisso davanti a ogni singola, come dire, postazione fa un solo gesto ripetuto, non pianificato assolutamente, perché cioè, per abitare una vite, certo, questo è la vostra, questo è proprio nella sua Marx non conosceva il fordismo, ma il fordismo fu la migliore esemplificazione della concretizzazione di tutte le cose che aveva scritto Marx sul lavoro astratto, sul capitale come lavoro morto contrapposto al lavoro vivo. Lavoro morto perché dentro al flusso produttivo organizzato, pianificato al decimo di secondo, al millimetro della cosa, ci sta dietro tutta la sapienza e la ricchezza, il sapere degli operai, diciamo, tradizionali. Nella fabbrica automobilistica, dagli anni 10 agli anni 30, tutto quello che si poteva automatizzare venne automatizzato, e non era molto, tutto quello che poteva essere messo su una linea di montaggio venne messo sulla catena di montaggio. Rimasero ovviamente tutta una serie di lavori che erano fuori della catena di montaggio, ma molti di questi erano comunque lavori dequalificati. Io quando sono arrivato a Torino nel 1972, ovviamente facevo l'intervento politico davanti alla Fiat, e quindi parlavo con vari operai, eccetera. Uno dei nostri operai, quelli del mio gruppo politico, è uno che lavorava alle opzioni meccaniche fuori linea di montaggio. Le presse erano fuori linea di montaggio, c'erano molti lavori fuori linea di montaggio. La linea di montaggio principale in una fabbrica di auto era la costruzione delle carrozzerie, che rivolgevano al settore carrozzerie di migrazione. Nella sezione meccanica di montaggio erano relativamente poche. E per esempio questo mio amico, questo operaio figlio di immigrati calabresi, che è morto pochi anni fa, negli ultimi anni perché era il consigliere regionale per la Commissione Comunista, era uno che per esempio cosa faceva? Il suo lavoro consisteva nel raddrizzare tutto il giorno, raddrizzare dei pezzettini, delle specie di barrette di metallo piccole, ammartellate, raddrizzarle, che erano uscite da una sezione automatizzata, ma per una serie di motivi doveva controllare che tutte fossero dritte, quelle che non erano dritte venivano realizzate a mano. C'erano alcuni lavori assolutamente dequalificati, però fuori catena. Una piccola parte dei lavori delle meccaniche richiedevano ancora abilità, in qualche maniera professionali, ma questa era allora questa, il fordismo, il terrorismo fordismo fu l'apoteosi dell'organizzazione capitalistica, fu però una grande rivoluzione nel modo di produrre. Prima di allora non si è, e ci mise parecchio tempo prima di, in Italia probabilmente il fordismo non arrivò del tutto ancora, perché vi ripeto, ancora gran parte degli operai che occuparono la Fiat nel 21-22 erano operai professionali, avevano una tradizione, erano quelli che a poco cominciarono a essere chiamate aristocrazie operaie. L'operaio tradizionale, l'operaio professionalizzato, aveva anche dal punto di vista della sua esperienza di lavoro, in qualche maniera qualche ragione per in qualche maniera identificarsi con la fabbrica. Immagine di piacere lavorare, mi piace lavorare, so fare il lavoro, so cosa fare, so come. No, l'operaio fordista della catena di montaggio, l'operaio che non deve fare altro che tiene in mano uno spruzzatore e deve spruzzare vernice sulle carrozzerie, intossicare 3 secondi, 4 secondi per una carrozzeria e va avanti, arriva l'altro pezzo, va avanti, quelli in queste cabine orrende che deve respirare per quanto abbia maschere, cose terribili. Che cazzo volete che sia orgoglioso di fare? Anche il mio amico Papa Andrea che martellava pezzettini di roba, di che cazzo doveva essere, diciamo, orgoglioso? Anche poi, cioè, il cofordismo stava creando una serie di trasformazioni dentro la classe operaia, dentro la composizione, quindi, diciamo, sociale, dentro l'esperienza operaia in fabbrica. Il sapere operaio era stato espropriato, tutto ciò che c'era di trasferibile era stato trasferito, oggettivato nelle macchine che funzionavano in base a come gli operai manualmente facevano il lavoro prima, e all'operaio stesso veniva restituito in forma parcellizzata, segmentata e totalmente priva di significato, totalmente era qualcosa con cui non ci si poteva più identificare. Sempre questa nell'ottica hegeliana del lavoro, allora, certamente il termine hegeliano e marxiano alienazione ebbe con l'avvento del fordismo una nuova declinazione e una ragione in più. Questo era, se l'altro lavoro era alienato soltanto, cioè, l'alienazione non la prima da Feuerbach, no, però Hegel Hegel dice, cioè, quando Hegel è un termine hegeliano, non è un termine hegeliano, sì, poi la Feuerbach, che poi però perché poi è ribalta la cosa, fa il primo ribalto, e Marx fa il secondo, e Marx lo fa con un lavoro, il lavoro è un'espressione dell'essere umano. Ma quello che volevo sottolineare era che se ai tempi di Marx il termine alienazione applicato al lavoro significava che astrattamente il prodotto del lavoro operaio veniva espropriato, l'operaio non aveva più il controllo totale su un processo produttivo e il suo lavoro veniva, il prodotto del suo lavoro diventava di proprietà di altri perché il capitalista gli aveva pagato la sua forza lavoro, la sua disponibilità a lavorare con lui per un tot di tempo. Con l'organizzazione fordista il termine alienazione diventa letterale, è molto più letterale, è molto più forte la alienazione di un operaio fordistizzato della catena di montaggio o meno rispetto a quello di un operaio tradizionale professionale. Il termine alienazione però non è un termine che, diciamo, piaceva molto ai marxisti deterministi, né ai socialdemocratici, né, perché era un termine che rimandava troppo all'hegelismo, marxiano, e da un certo punto di vista ha ragione anche, perché in qualche maniera il termine alienazione anche nei manoscritti economici del 44 di Marx in realtà rimane una componente, diciamo, hegeliana forte, anche in qualche maniera in una sorta di nostalgia mai esplicitata, non del lavoro, ma di una sorta di dimensione umana integrale. Era, quello è un, come dire, massimo, virgolette, umanistico, diciamo, quello più. Però è quello su cui si sbizzarrisce la sociologia dell'epoca, la alienazione. Quando Antonioni, nei primissimi anni 60, fine anni 50, comincia a fare film come L'Eclisse, o l'avventura, no, di Bologna, o anche Deserto Rosso, poi, insomma, ovviamente non parla di operai di fabbrica, parla di piccoli borghesi, ma il termine è alienazione. L'alienazione diventa, come dire, dalla fabbrica in primo modo si espande a tutta la società. È un fenomeno, l'uomo, come dire, moderno, alla fine degli anni 50, prima degli anni 60, è un uomo alienato. L'operaio di fabbrica è in quella forma lì. Ma siccome in qualche maniera un po' tutta, c'è un, come dire, i modi organizzativi della fabbrica cominciano a migrare anche all'esterno della fabbrica, anche negli uffici si comincia a lavorare con segmentazione, le cose vengono vengono parcellizzate. Ma questa è la visione, tipo alienato, perché significa che il lavoro allora, è altro da te ed è qualcosa in cui non puoi identificare, okay, perché non ti può soddisfare. Questa è giustificata perché questa cosa dell'alienazione è come se si auspicasse un ritorno di unione del lavoro nell'uomo. Una restaurazione della dimensione umana dell'uomo in quel lavoro ti realizza in qualche modo. Era chiaro che il lavoro neocapitalista non ti poteva più, diciamo, realizzare. Oggi siamo fuori da questo. Sì, da un sacco, per certi versi no, perché è tornata per altre vie, però in modi totalmente diversi. L'idea della realizzazione. L'idea della realizzazione è una fuffa, è una cosa che ti vendono dall'esterno, ma insomma. Come allora, sempre lavoro, diciamo, più che il termine alienazione, un termine che probabilmente esprime meglio la condizione operaia di quegli anni e in generale è il termine estraniazione. L'operaio è comunque, diciamo, l'esperienza dell'operaio nella fabbrica fordista è un'esperienza di estraneità. Non solo il prodotto, come diceva Marx, del mio lavoro mi è estraneato, ma il mio stesso lavoro, il mio stesso vivere, diciamo, lì dentro, è qualcosa che non mi interessa, è qualcosa da cui io cerco di fuggire, è qualcosa da cui cerco di cui cerco di fare a meno, di cui non posso fare a meno perché mi serve per vivere, ma non è certamente qualcosa in cui io mi posso realizzare. Non a caso, contemporaneamente a questa, diciamo, fordizzazione del lavoro nel neocapitalismo italiano ed europeo, c'è invece la grande spinta dello stesso capitalismo a valorizzarti e a realizzarti nel tempo libero. Hai nel tempo libero, però. Le lotte sindacali, le lotte precedenti ti hanno conquistato, non devi più lavorare per me 18, 16, 14, 12, oggi lavori 8 ore. Il tuo sindacato ti contratta un salario del bene. Vai a finito il lavoro, vai fuori, vedi cosa. Vedi tutte le cose che ti offre il mondo fuori, realizzati andando a fare altre cose nel tempo libero. In un qualche modo, in alcune delle teorizzazioni marxiste del marxismo ufficiale, viene fuori in qualche maniera l'idea che il socialismo consista in qualche modo in una specie di ingigantimento del tempo libero in cui l'uomo si possa realizzare, e vabbè, si paga lo scotto, non c'è, quindi comincia a scomparire nel pensiero riformista l'idea di ribaltare l'organizzazione capitalistica e abbattere, sbarazzarsi di un'organizzazione in quanto tale che ti espropria non solo del prodotto ma anche della tua attività, che no, per cui tu non sei più erogatore di lavoro ma sei erogatore di forza lavoro, sempre più astratto. La forza lavoro, cioè quello che io sono, ti do il mio tempo e, come dire, basta, bene, non si cerca più di superare questa, diciamo, dimensione, ma si dà per scontato che questa ci sarà in qualche modo e quindi che il progresso tecnico sia un elemento neutrale di cui non si può fare a meno e che il, virgolette, socialismo consista nel gestire in maniera più razionale e più pianificata lo sviluppo tecnico che il capitale in quanto tale sarebbe incapace da solo di, diciamo, gestire. Questa è una delle idee che vengono fuori in ambito riformista, da un lato. Dall'altro, quello dice, bene, abbiamo il tempo libero, facciamo una politica per i lavoratori nel tempo libero, i lavoratori si possono realizzare nel tempo libero. Questo è il quadro nel quale cominciano alla fine degli anni 50, già dalla metà degli anni 50, a maturare una serie di lotte totalmente nuove, adesso vedremo di più. Secondo, a sorgere i primi gruppi che proprio si ribellano a questa, diciamo, banalizzazione e impoverimento del marxismo e di una prospettiva radicalmente anticapitalista, e quindi fanno, diciamo, un lavoro che è, questo è molto importante, insieme teorico e pratico, un po' dentro, un po' fuori i partiti tradizionali, per, primo, rinnovare il marxismo, quindi tornare a Marx in qualche modo, recuperare la dimensione più piena del discorso marziano, secondo, organizzare, capire come possono essere potenziati gli elementi di novità che già nella classe operaia si stanno, come dire, vedendo, per costruire una dimensione politica diversa. Vi farò due soli esempi, perché sono esempi entrambi importanti. Nel 1960, quindi a 15 anni dalla fine della guerra, il movimento sociale italiano, partito più o meno dichiaratamente fascista, che allora prendeva circa il 6-7% dei voti ed era fuori da tutti i giochi politici, decide di tenere il proprio congresso nazionale a Genova. Il segretario si chiamava Michelini allora, e di fare partecipare un certo Basile, che era stato tra quelli che avevano fucilato i partigiani nella stessa Genova, che era una città medaglia d'oro della resistenza. Come l'avevano fucilato? No, lui aveva fucilare, lui aveva fucilare, poi si era salvato, era uno lì, era provato nel mise, avrebbe partecipato a questo qua. La città insorge, si incazza, il Partito Comunista fa grandi interventi parlamentari e ovviamente convoca una manifestazione che si svolge nella centrale piazza del Ferrari, che è una piazza con un grande fontana, chi di voi è stato a Genova, non quella che c'è ora, ma un'altra fontana molto più vecchia. Ovviamente la consegna del Partito Comunista è andare in corteo, andare in piazza, andare in piazza, sentire il comizio, poi andarsene via. La classe operaia genovese era una classe operaia molto dura, molto forte. Il nucleo fondamentale erano i portuali del porto, in realtà erano più piccoli imprenditori, che erano comunque cooperativi, cooperatori, gente che andava alle manifestazioni con il gancio con il quale tiravano su e dalle macchine, che era anche un'arma impropria normale, con tutta una tradizione anche un po' macista, di cattiveria, però disciplinatissimi e fedeli al Partito Comunista, che in quella città aveva quasi la maggioranza, la grande maggioranza. Bene, in quel giorno, il 30 giugno del 1960, il corteo molto grosso e molto partecipato arriva in Piazza Ferrari, se sentono il coso, ma quando il Partito Comunista comincia a smontare il palco dei compagni tutti a casa, i manifestanti non vanno tutti a casa, dicono no, siamo qua, corteo, no, abbiamo lì. Il Partito Comunista può dire siete pazzi, siete matti, siete così, sono anche diversi, non dico che i dirigenti comunisti vengono cacciati dalla piazza, ma quasi. Gli operai genovesi e i giovani, specialmente tra i più giovani, rimangono padroni della piazza. Ovviamente la polizia appena vede che non c'è più la copertura politica, perché il PC ha detto per me la questione è sciolta, comincia a far intervenire prima circondano gli operai, però gli operai si tengono, cominciano dei piccoli scontri, lancio di pietre. Cominciano a intervenire le camionette, fanno il giro intorno a questa grande fontana della piazza, tentando quasi di ammazzare le operai. Insomma, c'è guerriglia urbana quasi tutto il giorno. Correva l'anno? 1960, 30 luglio, 30 giugno 1960. I morti non ci scappano quel giorno a Genova, ci scappano qualche giorno dopo a Reggio Emilia, per una manifestazione fatta per la stessa cosa, ma il fatto politico è, per la prima volta, settori del proletariato, di operai molto giovani, una parte di loro portavano quel giorno un tipo di magliette che erano venute di moda da poco tempo, con delle strisce orizzontali, e quindi i giornali dicono le magliette a strisce. Le magliette a strisce, diciamo, una specie di proletariato ribelle e non disposto a seguire fino in fondo le indicazioni riformiste e pacificatrici dei suoi partiti ufficiali, il Partito Comunista in primo luogo, emerge quel giorno a Genova, insomma, ed è l'atto di ed è la visaglia. Chi stava con le antenne capiva che c'era qualche cosa che stava cambiando. due anni dopo, nel 1962, si apre un nuovo contratto di metalmeccanici e quindi la Fiat, la fabbrica di punta, una delle fabbriche di punta, i sindacati hanno un comportamento lievemente differente, adesso non mi ricordo più, dunque, erano i sindacati, erano tre, erano CGL e CISWIL, quelli dei metalmeccanici FIOM, CGL, FIM, CISL, WILM, WIL, non mi ricordo più bene se la WILM, il sindacato della UIL, che era un piccolo sindacato di socialisti, repubblicani, la gran parte dei socialisti stava dentro la CGL, nella CISL ci stavano i cattolici, più o meno di destra, a sinistra, cattolici, e nella UIL laici di vario tipo, una parte dei socialisti, tra l'altro era molto piccolo, aveva poca presenza, però non ricordo più se o firmano addirittura un contratto separato o se hanno la... c'è una manifestazione sindacale a Torino sempre nel giugno, mi sembra, del 62, quindi due anni dopo il 60 di Genova, e si dice luglio, ma in realtà era il 30 giugno, perché altro non le cose per cui. Allora, invece nel maggio e giugno del 62 c'è una manifestazione, la UIL ha una sede in una piazza che si chiama Piazza Statuto, che è ai margini del centro, ma è ancora in centro a Torino, e ha delle finestre che danno sulla piazza. Nonostante che la FIOM, che è quella che tiene la piazza, tenti di impedirlo, gruppi di operai si affollano sotto le finestre della UIL, che danno loro ostili contro la UIL, che viene considerato un sindacato ostile, e partono i primi sassi, vengono spaccati i vetri della UIL, interviene la polizia, nuovamente guerriglia urbana tutto il giorno. Era una cosa che non aveva mai successo in Italia, e quindi tutti si trovano. Era la seconda tra quelle che sono rimaste, la seconda tra quelle che cito io, la seconda volta che si cominciava a esplicitare, come dire, viveva un comportamento della classe, di alcuni settori della classe operaia, che non era in linea con le direttive nazionali e politiche. Nello stesso anno, 1962, esce questa rivista in forma di libro, forse aveva un formato lievemente diverso, forse aveva un formato. Questa è una ristampa, quindi invece questo è originale. Queste sono le cronache, che si chiamava Quaderni Rossi. Quaderni Rossi era formata da un gruppo di militanti prevalentemente dell'ala sinistra del PSI, credo quasi nessuno del PC, e alcuni fuori dei partiti. L'idea dei Quaderni Rossi era quella di esattamente quella di analizzare, di capire quello che succedeva all'interno del mondo operaio, del mondo della classe operaia italiana, per costruire una prospettiva di classe che, quindi allora, diciamo, da un lato capire quello che succedeva dentro la classe operaia, dall'altro restaurare gli strumenti teorici che a loro parere sia il PSI che il PC avevano fatto, diciamo, degradare, quindi ritornare, ristudiare il, come dire, marxismo, in modo che il marxismo potesse ridiventare uno strumento, diciamo, di lotta. L'animatore principale di questa rivista era un militante socialista che si chiamava Raniero Panzieri, che era nato nel 1921, credo, aveva fatto la resistenza, molto giovane la resistenza, ed era un vero dirigente del PSI, era stato in Sicilia proprio un funzionario, per un certo periodo aveva lavorato per la Einaudi come redattore, e importante fu il traduttore del secondo libro del Capitale di Marx. L'Italia era era rimasta, rimase senza traduzione del capitale. Il capitale di Marx non venne mai tradotto in italiano fino alla fine degli anni 50, fino alla metà fine degli anni 50. C'era un leader, in realtà poliromanachico, ma insomma Cafiero, Luca Cafiero, che nell'Ottocento aveva fatto un riassunto del capitale di Marx, e chi non vedeva il tedesco o il francese oppure l'inglese, cioè una lingua diversa dall'italiano, non poteva leggere il capitale se non in questa forma. Era un riassunto abbastanza fedele, ma insomma un po' tirato via in molte cose, era un libro abbastanza piccolino, insomma. Quindi la conoscenza, non c'era la conoscenza di prima mano di Marx. Gli Editori Uniti, che era la casa editrice più o meno ufficiale del Partito Comunista, cominciò a tradurre, fece tradurre tutti dall'inglese poi? No, dal tedesco. Dal tedesco. Solo traduzione dalla parte tedesca, ma anche una buona traduzione. Poi lo ritradusse, credo, Einaudi qualche anno dopo. Insomma, comunque era. Quali erano i. Allora, e di questo. Se vi leggo i nomi, insomma, di questo gruppo, oltre a Panzieri, facevano parte vari altri nomi che forse vale la pena leggerli, però qua non ci, eccolo qua. Nel primo numero c'è: collaborano alla redazione dei Corriere dei Rossi Emilio Agazzi, Romano Alquati, Alberto Altorosa, Giuliano Buoretto, Luciano Della Mea, Dino De Palma, Liliana Lanzardo, Mario Miegge, Giovanni Mottura, Giuseppe Muraro, Raniero Panzieri, Vittorio Riser, Emilio Soave, Mario Tocchi. Se non mi sbaglio, nel numero 4 troviamo un altro nome. No, sono ancora. Ah sì, c'è Vittorio Campione, va bene, sì, non si aggiunge. Ma c'è anche un 2 o un 3 o c'è un sudante? Allora, c'è un 1, un 2 o un 3, ci sono 6 numeri di questa. Sapevo che erano. Sono 6 numeri. E a un certo punto, credo, nel 4 non c'è, mi sa che a un certo punto compare anche il nome di Tony Negri, di Antonio Negri tra i cosi. Allora, le posizioni fondamentali. Giovanissimo. Beh, Negri aveva, se è del 36, come penso, nel 56 aveva già più di 20 anni. Aveva 20 anni nel 56, quindi io ne avevo 12. Nel 62, no? 62. Durano fino al 64. Poi vi racconterò un po' anche la, insomma, diciamo, un po' di dinamica interna di questo gruppo, che comunque è il gruppo in cui questo è l'incubatore di quello che si è poi chiamato, diciamo, il pensiero operaista. Quindi fanno inchiesta. Sì, sono quelli che fanno inchiesta. Una parte, una gran parte della sinistra rivoluzionaria italiana, dei gruppi degli anni, diciamo, 70, e anche anche non della sinistra rivoluzionaria, nasce da questa prima cosa attraverso una serie di. Allora, però, siccome sarebbe stato meglio dal mio punto di vista che a fare questa chiacchierata non fossi stato io, ma fosse stata una persona che è stata molto più interna, io queste qui sono cose coetanee, ma per una serie di motivi io sono sempre passato a fianco di questi, come dire, fenomeni senza viverli in prima persona, quindi li ho costruiti dopo. E quindi sarebbe stato meglio che l'avesse fatto il compagno Berardi, però insomma, non c'è il compagno Berardi. E però, siccome Franco Berardi ha scritto un bel libro una decina d'anni fa che si chiama La nefasta teoria di potere operaio, in cui prende il titolo di un articolo di Vittorio Bocca, questo è il titolo di Vittorio Bocca che lui ha preso in maniera, ovviamente, e in cui ricostruisce bene, molto bene, la storia del potere operaio, che è stato il suo gruppo, quello da cui è però uscito prima ancora. È uscito prima ancora che si sciogliesse lui, potere operato, che è stato via per i certi politici. È uscito lui. E però all'inizio fa esattamente questo lavoro che lo farei oggi, insomma. Quindi ho intenzione di leggervi soltanto le prime due pagine in cui spiega. È bello, dai, perché è ben detto. E secondo me, come dire, non che voi dobbiate essere. Quello lì, quindi, è il libro dell'Apocalisse. Beh, questo è il libro in cui spiega spiega le cose che io verso, so per dire io, certo, sì, la, cioè, spiega dai quaderni rossi, no, però, ah, dai, pure. Non c'è la prima parte della grazie sempre poco dopo. Quello è il libro del motivo del conflitto? No, questo è un libro uscito 10 anni fa, quindi è molto dopo i fatti. No, lui scrisse un libricino che purtroppo non ho più con me, perché non so, scrisse, pubblicò un libricino con un presidente che era contro il lavoro. E nel, mi chiedo poi forse nel 68 o 69, lui aveva, nel 69 il compagno Berardi aveva 20 anni, nel 68 ne aveva 19. Pubblicò questo libro con Petrinelli, no, forse era il 70, Petrinelli era il 70, Petrinelli lui fa un sacco di libricini piccolino, per dire. Lo pubblicò con Petrinelli, era, quindi aveva 21 anni, era il 70 perché era nato come operaio, viene convocato da Toninelli che gli contesti, cioè, tu non hai chiesto permesso a partito per pubblicare cazzo che cazzo fare una bella, però sai, Tolini era già molto più autorevole di Bico, era anche più grande, sì. Aveva, se era del 36 aveva più di 36, aveva 9, no, aveva 13 anni più di lui, non importa. Bifo di chi anno è? Del 49, Bifo ne ha 5 meno di me. Ve lo leggo perché le intenzioni con le quali, anche se non ho la stessa storia politica di Bico, ma insomma sono molto simili. In questo libro intendo ricostruire il campo problematico entro il quale si svolge l'esperienza intellettuale e politica di potere operaio. Partendo da quell'esperienza voglio ricostruire il reticolo concettuale che ci permette di interpretare il senso del divenire tardo-moderno e forse anche il processo di demodernizzazione che si svolge nel corso di questi anni 90. Questa è la mia tesi. Dall'elaborazione concettuale che si addensa intorno all'esperienza politica di potere operaio deriva una traccia metodologica utile a comprendere oggi qualcosa della transizione paradigmatica che tende oltre l'esaurimento della società industriale, oltre l'esaurimento del lavoro salariato, verso l'apocalisse di nuove orizzonti di possibilità. In Europa, finalmente, in questi ultimi anni del secolo, si comincia a parlare di riduzione dell'orario di lavoro. Prima il governo Jospin in Francia, poi il governo dell'Ulivo in Italia, sono quegli anni lì, pongono questo problema all'ordine del giorno dei loro programmi. È positivo che questo problema emerga nella coscienza politica del nostro tempo, ma siamo molto lontani da una visione chiara della realtà. Nel corso della storia della lotta di classe moderna, a partire dal XIX secolo, gli operai sono riusciti a strappare al padronato riduzione del tempo di lavoro quotidianamente dedicato alla prestazione della propria vita in cambio di un salario che renda possibile la sopravvivenza. La riduzione dell'orario corrispondeva, del resto, ogni volta a un aumento della produttività oraria tale da compensare largamente il capitalismo. Ma oggi non è la stessa cosa, non stiamo più parlando di un aggiustamento di lungo periodo sulla questione del tempo di vita dedicato al lavoro esecutivo. Il problema è che questa volta l'incremento della produttività non ha un carattere lineare, graduale. Quello che accade oggi è che la prestazione di lavoro esecutivo è diventata tendenzialmente inutile, perché il tempo di lavoro umano ripetitivo tende a essere sostituito in modo virtualmente integrale da automatismi elettronici coordinati informaticamente. Una riduzione dell'orario di lavoro industriale da 40 a 35 ore avrà effetti positivi sulla vita di coloro che lavoreranno 5 ore in meno alla settimana. È difficile dire se gli effetti sull'occupazione saranno significativi, ma il punto è un altro. Il lavoro di tipo esecutivo e ripetitivo necessario alla società tende a decrescere. C'è sempre meno bisogno di lavoro industriale e il modello sociale fondato sul salario si indebolisce. La traduzione sindacalista o legalista della questione orario di lavoro è sempre più debole. Il problema del tempo di lavoro è culturale, è la concezione stessa della vita quotidiana che va messa in discussione. Il problema non è quello della disoccupazione, ma dell'eccesso di tempo che una parte della popolazione è costretta a dedicare al procacciamento di salari. Il reddito necessario alla sopravvivenza non può continuare a essere dipendente dalla prestazione di lavoro. Contemporaneamente le forme nuove dell'attività umana sono sempre meno riducibili al modello del lavoro salariato, perché sono attività non quantificabili, non ripetibili, non scomponibili secondo i modelli dell'analisi dualista. Siamo dunque agli inizi di un processo che potrebbe portare alla liberazione della società dal vincolo mentale del lavoro salariato. E il pensiero che si tradusse nell'esperienza politica di potere operaio oggi una attualità particolare, perché aveva messo al centro il problema dell'estinzione del lavoro come una possibilità tecnologica, una tendenza sociale e un programma politico. Questo non è un libro di storia, non intendo qui fare la storia degli anni 60 e 70 e neppure la storia del gruppo politico denominato potere operaio. Questo lavoro resta da fare e sarebbe auspicabile che qualcuno lo facesse, non io, per due buone ragioni. La prima è che non sono uno storico. La seconda è che mi interessa piuttosto cercare in quell'esperienza chiavi teoriche per la politica. Il mio punto di vista è quello del militante, non dello storico. Sono stato militante di quell'organizzazione negli anni compresi tra il 1967 e il 1971, quando ne sono uscito per un dissenso sul tema dell'organizzazione e sulla svolta leninista che la maggioranza aveva deciso di imprimere. Ma in ogni caso la mia formazione culturale si è svolta entro la curva di quell'esperienza. Il percorso del potere operaio si intreccia con le lotte operaie e studentesche di quegli anni, ma per comprendere il suo rapporto con il movimento occorre partire dalla lettura di una problematica ampissima che attraversa il pensiero filosofico e politico degli anni 60, dei quali vorrei qui ripercorrere il panorama filosofico e ricostruire la formazione di una sensibilità cosmopolita, metropolitana, antilavorista, che negli anni più acuti della lotta si connessa nell'esperienza del potere operaio. In seguito alle vicende politico-giudiziarie che a partire dal 7 aprile del 79 hanno coinvolto gran parte delle persone che avevano condiviso quel percorso, il giudizio sul potere operaio ha finito per essere ridotto a ben poco. Quando parlo di potere operaio? 7 aprile 1979. Quando parlo di potere operaio a un amico più giovane, anche colto e informato, mi trovo a dover fare i conti con una percezione assolutamente deformata di quel movimento. Per anni la grande stampa si è occupata di potere operaio mettendo al centro della ricostruzione storica le questioni della lotta armata, e perciò la memoria, anche culturale, di tutto quello che il gruppo aveva rappresentato negli anni precedenti, l'insieme delle problematiche che esso aveva studiato, l'insieme dell'esperienza politica a cui aveva dato forma, sono andati quasi per tutti. E questo vale per il contenuto analitico, lo spessore filosofico del lavoro svolto da un gruppo di intellettuali e di ricercatori militanti, soprattutto nel primo periodo della vita del gruppo. In particolare rischiano di andare dispersi strumenti concettuali che forse sono indispensabili per comprendere il divenire attuale. La mia intenzione non è quella di ristabilire verità storiche e politiche, neppure mi interessa granché la questione che ha finito per essere oggetto dell'attenzione giornalistica e giudiziaria, cioè il rapporto con la violenza proletaria come con le formazioni armate. Nella storia del gruppo tale questione occupa un posto del tutto marginale. La mia intenzione è ricostruire la formazione di quel modello teorico esplicativo del divenire sociale, tecnologico e politico, che costituisce il contributo essenziale del potere operaio. Il mio scopo è dunque attuare, estrapolare da quella storia elementi di analisi e di prefigurazione, ricavare da quella lontana esperienza politica e da quel percorso teorico una griglia concettuale che ci permetta di interpretare non solo la storia delle lotte operaie e della maturità capitalistica degli anni 60-70, ma anche di interpretare la transizione oltre il sistema industriale, la devoluzione tanto capitalistica del fine 70, e forse anche cogliere il delinearsi oltre la crisi di fine secolo di nuovi orizzonti di liberazione e solidarietà sociale. La mia generazione, voglio dire la generazione che si è formata culturalmente intorno al 68, che devo dire è anche la mia, nonostante i pochi anni che ho pubblicato, la mia generazione rischia di incorrere in un paradossale malinteso. Rischiamo di scambiare la fine del comunismo e del movimento proletario organizzato come la sconfitta del 68 e della problematica che in esso per. Niente di più insensato. Che molti, o forse la maggioranza di quei militanti, abbiano identificato la loro storia con la storia del movimento operaio novecentesco, con la parabola politica del partito nemico, è vero, ma in certa misura poco importante. Il senso del movimento emerso nel 68 è diverso dalla coscienza che i suoi militanti ne ebbero. Esso rappresentò il primo movimento della storia capace di un'autoriflessione globale e in tempo reale. Quello che succedeva a Shanghai influiva sulle scelte di un gruppo operaio di Billancourt o di Busto Arsizio. L'ondata di insubordinazione dei giovani delle metropoli americane contro la macchina bellica aiutò i contadini comunisti del Vietnam a vincere la loro guerra e gli studenti di Pechino inneggiavano alle barricate di Rue de Lussac a Parigi, mentre gli studenti di Roma assaltavano l'ambasciata francese per protestare contro la repressione. La globalizzazione fece le sue prime prove in quell'anno, perché come vide McLuhan, quella era la prima generazione che poteva ricevere il mondo attraverso gli strumenti di telecomunicazione. Il comunismo, in quanto sistema stabilito e in quanto formazione economica e sociale, poteva ormai nel 68 essere giudicato per quello che era: un sistema totalitario e criminale, schierato a protezione di un modo di produzione feudale e burocratico, chiuso a difesa degli interessi di una classe dirigente autoritaria e arretrata che si proteggeva contro la dinamica espansiva e progressiva del capitalismo. La favola della sinistra, secondo cui, pur con tutte le critiche e il distinguo, comunque il comunismo sarebbe stato un sistema progressivo e il capitalismo regressivo, è pure semplice menzogna, pure semplice capovolgimento della realtà. Il capitalismo è un sistema intrinsecamente dinamico e progressivo. Il comunismo è stato un sistema di conservazione aggressivo, di chiusura militare e autoritaria a difesa di interessi feudali. Questo nel 68 non lo sapevamo. Già conoscevamo bene quali crimini raccapriccianti il gruppo dirigente della Seconda Internazionale avesse commesso nell'arco di 4 decenni. Era noto che il gruppo dirigente della Terza Internazionale aveva sterminato l'intera direzione del Partito Comunista Polacco, consegnandolo a Hitler, ed eliminato con determinazione i dirigenti anarchici e trotschisti durante la guerra di Spagna, che i comunisti avevano sistematicamente tradito gli operai d'avanguardia, che uomini come Togliatti e Longo andavano considerati prima di tutto assassini al servizio del gruppo dirigente criminale di uno Stato totalitario. Mi piace fare una cosa così, mi piace. Che con i comunisti non era possibile alcuna alleanza, perché si trattava di gente addestrata a tradire, a opprimere e a mentire. Sapevamo tutto questo, eppure non smettemmo di gridare il comunismo. Perché? Questo lo chiediamo noi. Perché il comunismo significava anche un'altra cosa: il movimento reale del lavoro contro il lavoro, il movimento reale di autonomia contro lo Stato, la ribellione degli operai contro il lavoro salariato, la ribellione degli oppressi contro lo Stato autoritario, l'auto-organizzazione delle forze sociali contro il capitalismo, la solidarietà degli sfruttati contro la guerra imperialista. Il movimento del 68 ebbe nemici diversi, a seconda delle diverse situazioni. I studenti tedeschi si battevano contro l'incitamento razzista dei giornali della catena Springer, e gli studenti di Praga si battevano contro l'oppressione burocratica e militare dell'URSS. Quelli di Milano portavano in giro ritratti di Mao e quelli di Berkeley erano lì. Ma gli studenti di tutto il mondo avevano qualcosa in comune: erano estranei al congelamento prodotto dalla guerra fredda. Non erano divisi da nessun muro. Il 68 fu il primo annuncio di un processo politico non più bipolare, ma multipolare. In questo fu un annuncio dell'89, che come sapete era il cronologo. Nelle lotte operaie e studentesche del decennio seguito al 68 si verificò un'oscillazione gigante della dinamica sociale che la portò fuori dalla sua orbita moderna, fuori dal suo modello industriale. Il 68 è soprattutto il momento in cui emerge sulla scena il lavoro intellettuale, tecnico, scientifico come attore sociale consapevole del suo ruolo produttivo. La critica filosofica e la ricerca sociale svolte da potere operaio rappresentano un momento di consapevolezza di questo trapasso che era maturo nella composizione sociale del lavoro, nel sapere scientifico e tecnologico. Se andiamo a rileggere i testi prodotti, libri, riviste, articoli, giornali, saggi di vario genere in quell'area di ricerca che si usa a definire impropriamente operaismo italiano, potremo trovare molti strumenti metodologici e analitici utili per analizzare la transizione post-industriale che noi stiamo oggi vivendo. Se ricostruiamo l'ottica storica e filosofica della scuola cosiddetta operaista e soprattutto se costruiamo un modello interpretativo del conflitto sociale che il potere operaio aveva elaborato, ci renderemo conto del fatto che il divenire sociale degli anni Ottanta, demolizione della classe operaia, industriale, territorializzazione e intellettualizzazione del lavoro, e anche il processo politico scatenato fin nell'89, crollo dei regimi socialisti, non era affatto imprevisto per il potere operaio, anzi rappresentava una linea di tendenza implicita nella sua lettura delle tensioni sociali e del conflitto di classe. È vero che a un certo punto il gruppo dirigente del potere operaio decide di rinunciare al contenuto più innovativo e disincantato del suo metodo analitico per ripescare nel pieno della battaglia politica dei primi anni 70 un'ipotesi leninista che non aveva realismo politico né forza esplicativa e soprattutto riportava il potere operaio nell'alveo della tradizione autoritaria e terrorista del comunismo terzo internazionalista. Si trattò di un errore politico e di un impoverimento del modello interpretativo le cui conseguenze purtroppo resero possibile una strumentale prosecuzione giudiziaria. Ma io voglio vedere il leninismo come una delle opzioni politiche di potere operaio, quella che purtroppo divenne maggioritaria a partire da un certo momento, che coincide puntualmente con l'inizio degli anni 70, Congresso Nazionale di Potere Operaio di Firenze, 9 gennaio 1970. Una delle opzioni, non l'unica possibile, nell'ambito di quel campo problematico. Allora, se vi ho letto questa cosa, intanto è perché era già scritta e non avrei saputo dirvela meglio e insomma volevo che ci fosse anche Vico qua, insomma, questo. Ma è perché poi prima di parlarvi dello specifico delle posizioni e dei credo che qua Franco abbia colto il punto come dire fondamentale. Intanto cioè, mi piace che uno che viene giudicato, pensato e visto in genere come leader del movimento del 77 non parla del 77 ma giustamente parla del 78, queste cretine, stupide contrapposizioni. È chiaro che il 77 è l'ultimo atto o la conclusione provvisoria di un processo iniziato nel 68. Ma poi perché dà una definizione del 68 molto giusta e molto bella, che io vorrei completare così. Il 68 è stato l'ultimo dei grandi movimenti del Novecento e ha annunciato i movimenti che stavano per venire. In questo senso 68 e 77 sono praticamente la stessa cosa. E il fallimento del 68 non è dovuto alla cosa che sto per dirvi adesso, ma è la colpa più grave della mia e della sua, diciamo, generazione. Ripeto che il 68 sarebbe comunque fallito in tutti i modi, ma il suo fallimento sarebbe stato meno grave, secondo me, se noi non avessimo fatto quella cosa, ognuno a modo suo, che qui in questa operazione denuncia Vico, cioè se non avessimo immiserito e incasellato quel movimento e le tendenze, diciamo, i reali movimenti di classe, perché anche noi studenti eravamo dentro il movimento di classe operaia in quel periodo, perché quella fu la vera molla che è stata, no, il 68, l'inizio di un processo di polarizzazione generale per cui la scuola cambiava funzione e oggi voi siete quello che siete, forza lavoro a tutti gli effetti, perché noi lo siamo stati prima di voi. Cioè, noi siamo stati, io sono stato uno degli ultimi, io come tanto sta 4 anni prima, 5, forse anche di più, 6 anni prima di Franco Berardi, sono stato uno degli ultimi ad entrare in una università di elite E mentre stavo facendo il tag, ci ho messo molti anni, anche perché di mezzo del 68, mentre la stavo facendo, mi stava cambiando funzione sotto gli occhi, si stava aprendo e stava diventando non più un luogo di riproduzione della classe dirigente, come tutte le scuole erano, tutte le scuole di certo livello erano parte del periodo, ma cominciava a diventare strumento di formazione di forza lavoro. Quindi la vera, quando noi dicemmo operai studenti uniti nella lotta, quando spasmodicamente tendevamo alla comunicazione e alla combinazione con la classe operaia, che era la forma che in quegli anni assumeva il proletariato e diciamo quindi il fulcro delle masse oppresse nei paesi capitalistici, lo dicevamo forse con una coscienza o con l'illusione di essere ancora fuori dal mondo del lavoro, ma in realtà dietro a questa nostra parola d'ordine c'era una confusa coscienza che già stavamo diventando classe operaia, che già stavamo diventando forza lavoro in formazione. Ora però noi facemmo un errore che fu comico e tragico insieme, insomma, perché non ci rendemmo conto bene di quanto di nuovo ci fu. Pur essendo giovani, io avevo 24 anni, ero già piuttosto vecchiottino, ma chi ne aveva 18, 19, 20, era la stessa cosa, insomma. Come dire, eravamo spavaldi e presuntuosi, come tutti i giovani devono essere, e sapevamo che quello era un salto, che stavano cambiando le cose, ci rendevamo conto che c'era una novità, che c'era una... ma interpretammo tutto e per fortuna che erano arrivati questi qua e i loro eredi qualche anno prima di noi a consegnarci uno strumento di lettura del reale che era meno ossificato e meno... ma anche loro non se ne erano resi conto tutti, alcuni più, altri meno, ma la cosa che noi facevamo, l'errore che noi facevamo fu quello di chiudere dentro quadri concettuali, categorie totalmente novecentesche e addirittura opzioni politiche ottocentesche, perché la rottura del movimento operaio tra socialdemocratici e comunisti è del 1904, ma è a fondo del 1800, insomma. E quindi preparammo a questo, come dire, movimento un futuro, una sconfitta grottesca, purtroppo. Non penso che ci saremmo liberati degli opportunisti e dei paraculi, cioè di tutti quelli, voi sapete che gran parte dei personaggi più in vista del 68 italiano oggi fanno i giornalisti, anche politici, pochi più fanno i giornalisti nei telegiornali medici, però principalmente sono tra i personaggi più ambienti, più che non si possono essere, purtroppo di più che noi, è il mio vecchio amico, il mio compagno di lotta che si chiama Carlo Panella. Bisogna, questo qui, questa forse di cui ci sarebbe stata il 7 aprile, ci sarebbe stato anche sicuramente, ma secondo me avremmo attraversato gli anni 80 e gli anni 90 in una forma diversa, perché non ci saremmo vergognati noi. Io sono imbarazzatissimo quando devo dirgli che è una cosa buffa, obiettivamente, ma quelli che non vanno operaia devono vergognarsi ancora di più per essere stati trotskisti credendo di non esserlo più, perché erano usciti tutti dalla quarta nel 68. E quelli di potere operaio, gli era dice giusta Leni, Bifo, per essere stati i più. Però è vero, e quello che dice Bifo è profondamente vero, è vero che la componente operaista, e quindi fondamentalmente il potere operaio in misura molto minore, la Trontima, che aveva già abbandonato molti dei caposaldi teorici, furono la componente del movimento, e quindi il gruppo politico, che seppero vedere più lontano di altri, che sul piano dell'analisi diedero l'unica vera e seria lettura possibile. Io, questa è una cosa autobiografica che non ve l'ho fatto in classe, ma ve la diciamo l'articolo stesso. Io ero un simpatizzante occulto di Potere Operaio nel corso del 68 e nei primi mesi del 69, e fu solo per una serie di casi, di cose casuali, insomma, che non mi iscrissi, che non entrai in Potere Operaio e poi entrai verso la fine del 69 nella Quarta Internazionale, e quindi li ho sempre seguiti da fuori, e quindi non ho la stessa, diciamo, conoscenza che ha Franco dall'interno di questa cosa. Ma ho sempre, perché ho sempre avuto, anche dentro la Quarta, ho sempre avuto in realtà delle posizioni dal punto di vista teorico e analitico più simili a quello del realismo che all'analisi ufficiale della Quarta Internazionale, anche se scrivevo altre cose, insomma, ma sono sempre stato. E credo che questa, diciamo, tradizione e i personaggi come Franco Draghi, che non è l'unico, insomma, che sono stati capaci di stare dentro quell'esperienza, uscirne quando non era possibile uscirne, e di declinarla poi con altri apporti, con altre cose. Questa è la ragione per la quale, non per, diciamo, pasticciare le teorie, perché io vorrei solo una, diciamo, rilettura e riscrittura di Marx oggi filtrata attraverso tutte le cose di cui si è poi nutrito Franco negli anni dopo, e anch'io qualche anno dopo di lui, perché sono arrivato un po' più tardi, insomma, che sono il poststrutturalismo, che è Foucault, che è il femminismo, che sono tutti questi contributi degli anni 70-80 che apparivano all'inizio, come dire, diciamo, diversi. In un pezzo che non vi ho letto, Franco, come dire, protesta contro il nome operaismo, perché giustamente dice non è un nome giusto, bisogna dargli un altro nome, e propone un nome che non avrà mai fortuna, naturalmente, quindi essere lì, però insomma, diciamo, che è composizionismo, perché il principale non suona malissimo, però è vero che il concetto, diciamo, principale, il maggior contributo di Panzieri, Tronti e poi di Toni Negri, e in questo è una cosa che li accomuna, non c'era divergenza tra loro, è questo, diciamo, concetto di composizione della classe operaia, composizione di classe. Il termine composizione deriva da Marx, ma Marx non parla mai di funzione di classe, parla di composizione del capitale, è la composizione organica del capitale, è il rapporto che c'è tra capitale costante e capitale variabile, cioè tra salari, cioè tra parte del capitale che serve per compensare la forza lavoro e parte del capitale invece diciamo investito, oggettualizzato nelle macchine, insomma, e Marx spiega che questo rapporto C su U tende a diventare sempre più piccolo, quindi che il capitale costante tende a diventare sempre minore rispetto a quello variabile, che è cosa che per Marx è indizio di un processo di generale proletarizzazione della, diciamo, società. Diciamo, genialità però della tradizione di Guadagni Rossi fu quella di, diciamo, il vero fulcro di questa, della loro cosa era che tendenzialmente loro uscivano da entrambe le, diciamo, letture classiche del marxismo. Quando nel 72 o nel 73 Panzieri era morto da 12 anni, da 8 anni, 9 anni, uscì un libro che non vi ho portato oggi a far vedere, perché uscì un titolo a cura di uno che aveva lavorato nei Quaderni Rossi, di Dario Lanzardo, che quell'epoca stava in Amorale Operaia, che ha un titolo grottesco, si chiama Raniero Panzieri e la ripresa del marxismo-leninismo in Italia. Marxismo scritto trattino leninismo. Il termine marxismo-leninismo, che è tipico dei maoisti e di tutte queste, della tradizione scolastica di derivazione staliniana oppure maoista, è qualcosa di totalmente strano alla tradizione di Guadagni Rossi. Panzieri, il povero Panzieri si sarà rivoltato nella tomba quando uno dei suoi amici, uno dei primi collaboratori più giovani di Guadagni Rossi, scrive un libro su lui Galileo Manzieri è la ripresa del marxismo in Italia, e il punto sul quale Panzieri, Tronti e tutti gli altri, la tradizione operaista ha diciamo insistito, è stato questo: è quello che conta non è la definizione sociologica di classe operaia. La definizione di classe operaia, la classe operaia è in qualche maniera indefinibile, perché è un a priori, perché è una delle due polarità sulle quali si regge il capitalismo. Il capitalismo si regge su una polarità capitale-lavoro, e quindi quello che è importante non è andare a vedere come il livello politico si articola sul livello sociale o come sociale, ma andare a come dire, vedere le ecco, noi potremmo dire la struttura, la strutturazione interna della classe operaia, ieri, oggi diremmo del lavoro precario, del lavoro precarizzato, che è la nuova forma del proletariato, produttivo, che è anche il tempo libero. Il lavoro precario, certo, intendendo, ma anche intendo anche il lavoro stabile, è precarizzato. Ma no, ma anche il tempo libero, no? Certamente, e quindi estendendolo a poco alla dimensione della vita. Questo tipo di analisi che si fa oggi è esattamente l'erede della, diciamo, tradizione della composizione operaia. Nel primo numero del concetto di composizione, nel primo numero di Guadagni Rossi c'è il primo articolo, si chiama Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, ed è di Vittorio Foa. Penso tu sappiate chi è ancora vivo oggi, fa 98 anni, insomma, è uno dei grandi vecchi della sinistra italiana, adesso è simpatizzante del PD. Vittorio Foa era uno dei principali dirigenti della sinistra socialista dell'epoca, e poi uscì e fondò il CIUP quando la sinistra se ne andò dall'UPSI nel 64 per protesta contro l'ingresso a governo dei socialisti nel sinistra. Vittorio Foa non è mai stato uno dei Guadagni Rossi. Panzieri gli chiede questo articolo, quindi l'articolo di Foa è una specie di testimonianza dei legami che ancora all'inizio Panzieri era uscito dal PSI poi qui c'è un saggio di Raniero Panzieri che si chiama sull'uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, ed è un tentativo di, ed è una delle cose che adesso vediamo come si sono enunciate alcuni nodi, diciamo, teorici. Ma poi subito dopo c'è prima ancora di un saggio, c'è Cronaca delle lotte ai cotonifici di Valle di Sud, definizione del settore in una prospettiva politica, effettivamente di Giovanni Mottura e di Vittorio Rive, due persone che nel 69-70 troverete nella Guardia Operaria, quindi non nell'ala operaista. Ma soprattutto troverete documenti sulla lotta di classe alla Fiat, a cura di Romano Acquati, una relazione di Romano Acquati sulle porte nuove, al convenire della presidenza della Fiat. Insomma, troverete qua già l'idea dell'inchiesta operaia usata non come puro strumento conoscitivo, voglio sapere come stanno le cose, ma come strumento di organizzazione politica. Sono gli stessi anni in cui un altro militante socialista molto importante, che non c'è mai, che si chiamava Danilo Montalto, scrisse due libri molto importanti. Uno si chiama Autobiografia della leggera, e l'altro si chiama Militanti politici di base, e sono due libri nei quali questo metodo dell'inchiesta viene applicato nel primo al sottoproletariato, non al proletariato, la leggera in medaglia milanese vuol dire il piccolo criminale, nasce la idea, voleva dire il piccolo criminale, quindi sulla microcriminalità, eccetera, eccetera. Invece il secondo volume era sono le amministrazioni del PC e del PSI che parlano di se stessi, e quindi è una raccolta. Quando abbiamo pensato a fare il libro di Anna Damolo, io dissi a Loretta, cazzo, ma guarda che c'è. Stiamo facendo le stesse cose che hai riportato questi qui, che avete montato, insomma, perché era la quindi era un'altra registrazione dell'idea di inchiesta. Sì, era un modo un po' nuovo di fare in qualche maniera una inchiesta. Un'inchiesta fatta in forma narrativa, uno strumento molto interessante. Se guardate comunque... oggi Posse, che è l'organo dell'autonomia di oggi, ha giustamente riprende sì, però lì come è ossessiva, cioè l'inchiesta è sempre in ottica, cioè in senso è un po' così, perché questo dipende dalle cose. Allora, vi dirò, penso che su questo si chiude perché poi è un po' tardi, no? Allora, però vi dirò in breve quali sono i caposaldi teorici, questo bisogna dirlo perché così se no. E poi faremo la prossima volta, invece parleremo del dibattito interno, eccetera. Ma comunque i caposaldi teorici dei Guardiani Rossi in qualche maniera bisogna, come dire, presentare. Allora, dal punto di vista pratico, i Guardiani Rossi si muovono, ripeto, fra dentro e fuori i partiti tradizionali. Quindi, in gran parte sono fatti di persone che hanno militato nella sinistra socialista, ma che ne sono usciti o ne stanno uscendo dal Partito Socialista. Alice, non solo, scusami, quello di costruzione storica, non solo due grandi partiti, Partito Socialista e Partito Comunista. Questi erano i due partiti della. E poi i diversi gruppi non c'erano, c'erano solamente. I gruppi c'erano, c'erano i gruppi bordighisti, c'erano da allora e c'era la Quarta Internazionale. Vabbè, però. Erano gente che non era. I gruppi maoisti cominciavano a sorgere, i gruppi maoisti, perché a livello internazionale il Partito Comunista Cinese rompe col Partito Comunista Sovietico credo molto presto, sui anni 51-52, okay. Stanno forti dei paesi, però ci mettono un poco di anni. Allora, dopo alcuni anni, quindi già verso la fine degli anni 50, il Partito Comunista Cinese aveva cominciato a finanziare la nascita di gruppi di simpatizzanti loro fuori dai partiti comunisti ufficiali. Però erano gruppi che non contavano assolutamente un cazzo. Io quando vado alla manifestazione del 67 per il Vietnam a Firenze, vedo per la prima volta, forse dico io che ero un coniugo, insomma io ero un militante socialista, ma non c'entro nulla con quella storia lì. E per la prima volta vedo gente che mi dà dei volantini firmati, Battaglia Comunista, Partito Comunista Marxista-Leninista, e sì, io rimango stranito, ma che cazzo sono questi? Non avevo anche la minima idea di che cazzo fosse, era il 67. 67, sì. Marzo, aprile, 67. E è la prima volta che entro, quindi uno come me, che davanti alla politica, la politica da quando ero all'università, dal 62 anch'io, ma non avevo la minima idea che ci fosse, quindi erano proprio invisibili, insomma, come. Allora, questa è dal punto di vista della... poi sulle questioni pratiche del cosa fare, se costruire un partito nuovo, se i vecchi, i Guardiani Rossi si spaccheranno, ma si spaccherà anche il gruppo di classe operaia dopo. E quindi l'operaismo verrà fuori da questa serie di tra. La classe operaia non si spalda. La classe operaia nel 67 finisce. Già si spalda. Già si spalda e già la operaia già Tronti aveva cominciato a litigare con Toni Negri e con gli altri, insomma, perché c'era ma di questo voglio parlare dopo. No, perché adesso voglio dire in breve quali sono invece i caposaldi teorici. Dal punto di vista teorico, l'esperienza dei Guardiani Rossi costituisce un tentativo di ripristinare una sorta di purezza, di originalità metodologica marxiana contro due cose. Primo, contro l'idea di cui vi stavo prima dicendo, contro l'idea, diciamo, riformista, che la classe operaia debba sostenere le ragioni della pianificazione contro, diciamo, l'anarchia capitalista. L'analisi del neocapitalismo di Guglielmo Rossi chiarisce che il neocapitalismo non è affatto anarchico, ma utilizza lo strumento della pianificazione, ha una sua visione pianificatrice, che la pianificazione è uno degli strumenti dell'oppressione di classe. Quindi che se il movimento operaio deve eventualmente mantenere la sua opzione di piano, non deve essere certamente non la pianificazione burocratica e autoritaria dei paesi capitalisti, dei paesi socialisti, ma non deve essere neanche una capitalistica. Quindi bisogna cominciare all'interno delle lotte, dice Panzieri, su questo fronte poi sarà più d'accordo, cominciare a fare maturare all'interno delle lotte un modo nuovo di fare la pianificazione, di tipo, diciamo, tendenzialmente, come dire, socialista. Ma il secondo punto sul quale gli scolari rossi innovano è una lettura totalmente nuova, e questo va dato in gran parte merito a loro, sia a Panzieri che a Tronti, anche se poi sarà Tronti che si insisterà di più, una nuova lettura di questa classica e deterministica contraddizione sviluppo delle forze produttive, cappello dei rapporti di produzione, che messo come l'aveva enunciato Engels era una paralisi, perché anche quello dava adito a una, diciamo, lettura delle lotte operaie subordinate ai movimenti del capitalismo. Allora, il punto teorico fondamentale dei Quaderni Rossi è che lotte operaie e sviluppo capitalistico non sono indipendenti, sono strettamente correlati. Il capitalismo risponde alle lotte operaie. Le lotte operaie non sono una semplice resistenza allo sviluppo tecnico, ma sono un elemento che a sua volta determina lo sviluppo del capitalismo. Il fordismo non è stato perché a un certo punto il capitalismo decide, i capitalisti americani decidono negli anni 10, facciamo questa nuova organizzazione della produzione, perché i sindacati tradizionali degli operai di mestiere, degli operai professionalizzati, avevano cominciato a estendersi in modo totalmente corporativo, totalmente, c'è una lunga storia, anche il sindacato americano, c'è anche un sindacato di classe molto più combattivo, ma quelli più grossi erano quelli tradizionali professionali, che si chiamavano AFL e CIO, American Federation of the Labor e Congress of Industrial Organization, ed erano separati allora questi sindacati tradizionali, corporativi, eccetera, hanno cominciato a fare al padronato. C'erano state lotte molto dure nell'industria meccanica dei tornitori, dei tessitori con la tessile, eccetera, e avevano fatto crescere il costo, avevano avuto, approfittando di una buona congiuntura dell'industria meccanica in quel periodo, uno sempre aumenti salariali molto forti, molto, come dire, pesanti. Inoltre, in qualche maniera, come dire, in qualche modo questi rappresentavano una sorta di elite dirigente che si portava dietro anche gli altri lavoratori. A quel punto la distruzione della figura dell'operaio professionale comincia a, come dire, diventare un obiettivo per i capitalisti. Non vogliono più avere a che fare con l'operaio professionale. Ora questa, quindi il fordismo è la prima, non è già la prima, ma è stata la più grande risposta del capitalismo alle lotte degli operai. Il post-fordismo, stessa cosa. Perché? Perché viene fuori il post-fordismo? Certo, per questi motivi, la crisi petrolifera, eccetera, eccetera, eccetera, ma il post-fordismo è la risposta capitalistica al più lungo ciclo di lotte del secondo dopoguerra, alle lotte cominciate appunto negli anni 60 e proseguite negli anni, fino a quasi tutti gli anni 70, o gran parte degli anni 70. Il capitalismo comincia a progettare il suo cambiamento produttivo esattamente a metà degli anni 70, quando non ne può più, quando è stufo di vedere la propria attività, per molti capitalisti, la propria attività all'interno delle fabbriche, diciamo, impedita, resa difficile, paralizzata dall'iniziativa operaria. Ora, questa idea quindi che le lotte operaie e lo sviluppo capitalistico siano in continuo interscambio, che l'una agisca sull'altra, che, questa è una delle cose dal punto di vista del metodo più importanti come quella dei Rossi, ed è la roba che io vi consegnerei a voi come metodo, perché è un metodo che dovrebbe essere applicato anche oggi. Dovremmo cercare di capire, voi, non noi, ma insomma c'è un Werther più di noi, chiunque voglia si prefigga oggi di organizzare in ma qualche maniera il lavoro precario, la risoluzione all'interno di un sistema capitalissimo, no, Loretta, cioè, deve bisogna capire comunque che per essere meglio dialettico per capire comunque che ogni cosa che tu fai avrà una risposta, ma una risposta è che è capitale, ma è ovvio, ma quindi l'obiettivo è la liberazione del sistema, ma ovviamente l'obiettivo rimane quello, ma è un conto diverso. Cioè, tutto questo serviva in maniera polemica contro i dirigenti del PSI e anche del PC, però, che dicevano: ah, bisogna rivendicare una maggiore razionalità, bisogna che i lavoratori rivendichino, bisogna che si battano per la pianificazione. La pianificazione ha gli elementi socialisti, oppure che, diciamo, l'idea che il progresso tecnico sia un progresso neutro, che la tecnica sia qualcosa di neutro. Ah, il progresso tecnico è inevitabile. Dicevano sia i dirigenti sindacali che quelli politici. L'iniziativa, l'azione della classe operaia deve tenere conto del quadro tecnico in cui si trova, perché il quadro tecnico è buono per tutti, è qualcosa di progressivo che va bene sia per i capitalisti che per noi. Poi discutiamo su chi devono andare. Questa è una roba fuori dal mondo. Cioè, il progresso tecnico è la risposta del capitalista alle tue lotte, e quindi tende costantemente a toglierti spazio economico e politico dentro l'organizzazione produttiva, esattamente come la precarizzazione lo è oggi. La precarizzazione è l'arma principale che il capitalismo è riuscito smantellato o marginalizzata la fabbrica. La precarizzazione è quello che gli serve allo Stato per non pagare i costi sociali, diciamo, del welfare che paga agli lavoratori, come dire, occupati, per tenere ricattato il lavoratore e per abbassare il posto del capitale variabile che ci sia una contraddizione principale, che è quella della lotta. No, non ho detto prima, lotta di classe, Loretta, cioè in qualche modo ci sarà bene, sì, però nel senso che lo sviluppo tecnologico non è solo quello, cioè non è solo risposta del capitale alle esigenze del lavoro, alle rivendicazioni del lavoratore, ai movimenti lavoratori, anche quando non si ma lavoratori inteso come soggetto, lavoratori in generale, cioè tipo come soggetto che vive, come soggetto dalle persone che vivono, ovviamente, Loretta, più specificamente verso quelli che hanno uno specifico rapporto di lavoro. È vero che in generale siamo tutti, come dire, lavoratori, però è anche vero che McDonald's sta più attento al comportamento dei lavoratori interni. Me che sono i lavoratori esterni, cioè dei lavoratori che gli danno più profitto, che sono quelli che sono più fuori. Questo è un altro discorso. Comunque il lavoratore esterno si presenta ancora a McDonald's nella veste di consumatore, questo è un altro discorso. Sì, ma nel senso, in questo modo estrae plus valore da te, perché va a vedere come tu ti comporti. La mancata risposta a una campagna pubblicitaria da parte del consumatore può essere una sorta di rivendicazione del consumatore nei confronti del capitale, sono d'accordo, allarghiamolo come metodo, allargare come bisogni generalizzati del cibo. Allora, diciamo che in generale qualunque comportamento, cioè, e il nostro problema oggi, io non ho nessuna risposta, però il nostro problema oggi è che, siccome il processo di valorizzazione è così esteso e comprende e prevede la capacità del capitale di valorizzare, di far diventare un pezzo d'economia qualunque comportamento che fai. Esatto. E allora su questa roba, allora questa infatti, ma cioè, questa non è altro che la generalizzazione di quel modello che noi si erano già visto 40 anni fa. Il legame tra ore di lavoro e salario è un falso mito, cioè ma è evidente, questo è evidente. Pregiudizio, una forma mentale, un immaginario di cui ci dovremmo liberare, forse quello che magari era anche nei quaderni rossi, non lo so. Però. No, le quaderni rossi erano così. Vabbè, qua possiamo tagliare, perché mi sembra... Allora, io vi ho praticamente portato fino adesso, ci resterebbe da fare un po' di breve storia, faremo se faremo un'altra volta, degli anni 60-70, cioè del dibattito interno ai quaderni rossi tra Panzeri e Tronti, poi fondazione di classe operaia di Contropiano, rottura Tronti-Negri, il 68 cos'è stato, ve l'ho già detto un po' questa sera. Cosa? Noi ci c'erano anche poi, le teorie dei gruppi, non so. Sì, vagamente, in breve, ma non le teorie non sono tanto, guarda. L'unico che aveva è... Sì, anche soltanto... Ma erano largamente politici, largamente... Il manifesto... Aspetta che lo stacco così...